You are listening to Radio Yoga Network, Italian radio that broadcasts in Italian on www.letteralmente.info. Our email address is radioyoganetwork@gmail.com. La voce delle sirene, con Antonietta La Terza. Buon ascolto di Letteralmente Radio Yoga Network. In studio, Monsignor Luigi Bettazzi, Vescovo di Ivrea. Monsignor Bettazzi, Giorgio Bouchard, pastore valdese, già moderatore della Tavola Valdese, Elena Löwenthal, una collega giornalista, ebrea, di religione ebraica, scrive di cultura ebraica, lei. Padre Bernardino, Fra Bernardino Prella, teologo, è già stato molte volte ospite della nostra trasmissione. Abbiamo ancora un artista, Antonietta La Terza, cantautrice, è così che sì, possiamo definirla. Che ha da raccontare molte storie, sì, e anche in rapporto al decalogo sul ruolo della donna. Non desiderare la donna d'altri. Questo ci dirà sì, qualcosa. E infine, in collegamento dagli nostri studi di Firenze, Pierluigi Vigna, procuratore della Repubblica di Firenze. Allora, Antonella La Terza, su questo nono comandamento che abbiamo visto è quello considerato più attuale. Non desiderare la donna d'altri. Quando avevo saputo che era questo il tema della trasmissione, subito ho pensato, ecco, questo è il comandamento che mi interessa di più, perché subito l'ho trovato un po' maschilista, un po' patriarcale, cioè come non desiderare la donna da altri. E lo dice poi una persona che è vicina alla Chiesa, cioè non sono atea, anzi tutt'altro, no? Allora, siccome avevo molti dubbi rispetto a questa cosa, non desiderare la donna, allora noi donne siamo sempre viste come oggetto, siamo passive, ancora una volta noi siamo oggetto di una sanzione, no? Ma come soggetto non diciamo la nostra. Che cosa ho fatto? Non ho voluto parlare con un prete maschio, ma ho voluto parlare con una suora. Peraltro una suora, Suor Miriam di Bologna, che è venuta anche alla vostra trasmissione. Ah, che è stata qui, certo. E che lei è proprio una teologa domenicana, quindi che ha veramente anche padre Prella è domenicano, vero? Ah, complimenti. Però ecco, ho fatto bene secondo me a telefonare a Suor Miriam perché il mio intuito di donna non ha sbagliato. Infatti lei ha tirato fuori un'interpretazione di questo comandamento molto interessante. Ha detto questo, poi è libera Suor Miriam di modificare se io interpreto male quello che ha detto, giustamente. Che significa questa cosa, non desiderare di fecondare la donna d'altri. Quindi molto importante il fatto di non mettere incinta una donna da altri. Questo che può sembrare forse ancora più maschilista, no? Invece, ecco perché, invece in realtà, secondo me, è centrare il ruolo della donna come estremamente positivo e come estremamente anche fondamentale. Perché la donna è più vulnerabile effettivamente, ha questa grandissima potenzialità, quella di partorire, di mettere al mondo dei figli, e forse va sottolineato il fatto che bisogna tutelare questa grande potenzialità. Ecco, Antonella, lei ha una storia sua di maternità. Sì, dunque io sono rimasta incinta molto giovane, a 19 anni. E la prima cosa che ho fatto ovviamente è stata quella di andare... Era già in carrozzella? Sì, perché io mi sono ammalata a 17 mesi. Ho preso la poliomielite e praticamente non ho mai camminato. Insomma, io la mia vita l'ho vissuta in carrozzina. Sono stata dentro il polmone d'acciaio quando ero bambina. La mia prima infanzia io l'ho vissuta in ospedale perché... purtroppo ero molto grave, no? E diciamo, oltre questo risultato non sono andata, cioè non posso camminare, eccetera. Però ho potuto diventare questo, mamma, ecco, ci racconti questo. Io ho vissuto una vita, anche a livello sessuale, affettivo, così completa. A 19 anni sono rimasta incinta, sono andata dal ginecologo a Bologna, così. La prima cosa che mi hanno detto, questo staff sanitario, le consigliamo di abortire, perché nel suo caso potrebbe avere delle controindicazioni, ci potrebbero essere delle complicazioni. E io mi sono sentita estremamente offesa, cioè da questo, anche perché non c'era un motivo vero, patologico, fisiologico, era soltanto come una misura preventiva, no? Come dire, siccome ci potrebbero essere delle complicazioni, guardi, noi le cose. Io no, mi sono opposta con tutte le mie forze. Fino a quando ha portato avanti la maternità. Ho trovato un ginecologo, un altro, che invece mi ha seguito e sono arrivata alla fine della gravidanza, ho partorito col taglio cesareo ed è nata una bambina bellissima, che adesso è una ragazza stupenda, che si chiama Vanessa. E meno male che ho insistito nella mia strada, altrimenti Vanessa oggi non ci sarebbe. Ecco, come collega questa sua vicenda personale al nono comandamento? Ecco, io vorrei che l'interpretazione moderna di questo non desiderare la donna da altri volesse dire questo, cioè difendiamo il diritto della donna alla maternità e difendiamo il diritto della donna all'amore soprattutto. Qualunque donna, cioè in qualsiasi condizione si possa trovare questa donna, che sia povera, che sia handicappata, che sia nera di pelle, che viva in un paese povero, che viva in un paese ricco. Ecco, difendiamo questo. Secondo me vorrei almeno sottolineare che Suor Mira mi ha detto sì, è così, non fecondare la donna ad altri. È vero? Cioè non so, discutiamo. Ecco, sulla sua storia credo che senz'altro Monsignor Bettazzi e Padre Perella saranno d'accordo. Cosa ne pensa? C'è una telefonata. Padre Bettazzi. Monsignor Bettazzi, mi sembra così una cosa molto bella. Una storia bella, esemplare. Molto bella. Sì. Allora, l'interpretazione non so se è proprio esatta, ma perlomeno ecco, è servita moltissimo. Ecco. Allora, dobbiamo fare cantare Antonella, poi vediamo se resta Antonietta tempo. Antonietta la terza con Donne a Marrakech. Antonietta. Sono territori dove brucia il sole, deserti dove trovi solo Coca-Cola e ragazze in divisa militare, perché in quei paesi la guerra è normale e invece di uno specchio che li aiuti a sognare si trovano un bazooka in mano per sparare, ma poi di notte sulla spiaggia intorno a un fuoco c'è chi racconta ancora del suo primo bacio. C'è chi vorrebbe farsi crescere i capelli e andare in discoteca coi ragazzi più belli. C'è lei nel sacco a pelo che si sente sola e si accarezza piano aspettando l'aurora. Donne bionde dell'est, donne brune a Marrakech, donne in cerca di tenerezza e di avventura, donne sotto il metro con i jeans, con il chador, se si prendono per mano arrivano alla luna, così fra le sue braccia dici amore ti chiedo e ti innamori a vista di un ragazzo nero e ti chiedi se davvero sei sempre la stessa, a letto, a lavorare o la domenica messa, e scopri che l'amore è la tua debolezza, ma è anche la tua forza, è l'unica salvezza. Siamo noi donne bionde dell'est, donne brune a Marrakech, donne in cerca di tenerezza e di avventura. Donne sotto il metro, con i jeans, con il chador, se si prendono per mano, arrivano alla luna. E se una cometa passerà vicino a Sarajevo, nell'ala sud, reparto B, secondo piano, Maria farà nascere il suo bambino. come noi donne bionde dell'est, donne brune a Marrakesh, donne in cerca di tenerezza e di avventura, donne sotto il metro con i jeans, con il chador. Se le metti tutte insieme arrivano alla luna, donne appese a una stella, donne contro la guerra. Ai, ai, ai, ai, ai. Niente, la terza. Vi ricordiamo. Gli audio da YouTube su Letteralmente Radio Yoga Network vengono prelevati su precisa autorizzazione degli autori. Ciò non autorizza nessun'altra stazione radiofonica a ritrasmettere tali contenuti che, ripetiamo, sono stati concessi a Letteralmente Radio Yoga Network esplicitamente. Amore e buona energia, letteralmente Radio Yoga Network. Fa bene al corpo e allo spirito. Letteralmente Radio Yoga Network presenta Radio Notizie, dedicato al radioascolto, condotto da Dario Gabrielli. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Letteralmente Radio Yoga Network da Dario Gabrielli, redattore della rivista Radio Notizie, in cui si parla di radioascolto internazionale. Chi volesse ricevere informazioni su questa rivista può scrivermi al seguente indirizzo: Gabrielli Dario, Viale della Resistenza 33B, 30031, Dolo, Venezia. Indirizzo di posta elettronica radionotizie@hotmail.com. Qualche ascoltatore potrebbe pensare e chiedersi quanta energia consuma normalmente una radio. Oggi vorrei parlarvi dell'energia che consuma la nota emittente nazionale inglese BBC, che ha condotto una prima ricerca sui consumi dei propri impianti di diffusione. Uno studio per molti aspetti incompleto, come non possono che essere le ricerche innovative, ma che pone alcuni punti fermi su una questione delicata. Un primo confronto tra consumi per la diffusione herziana e via internet per creare, produrre e trasmettere i suoi programmi su 5 piattaforme, la BBC ha consumato nel 2018 325 gigawatt, pari all'1 per mille dei consumi elettrici del Regno Unito. La maggior parte dell'energia è stata usata dalla rete di modulazione di frequenza, il 31%. Seguono internet con il 29%, il DAB con il 20%, il digitale terrestre con il 17% e le onde medie con l'8%. In rapporto agli ascolti, il mezzo più energivoro è il digitale terrestre, seguito dalle onde medie, da internet, dalle modulazioni di frequenza e dal DAB. Il consumo di energia dei ricevitori è stato pari al 73% del totale, mentre quello per la distribuzione del segnale è stato del 27%. E quello per preparare i programmi meno del 0,1%. Lo studio ha poi considerato alcuni casi ipotetici di evoluzione della distribuzione, spegnendo l'analogico con scenari che comprendevano combinazione di DAB, digitale terrestre ed internet, in base ai quali sembrerebbe che i risparmi maggiori siano ottenuti conservando solo il DAB e l'internet. Ma gli autori ammettono che i conti potrebbero variare in base al tipo di dispositivi scelti da utenti dopo un eventuale switch off. Senza conoscere le condizioni reali di copertura e fruizione dei singoli sistemi di distribuzione, non è possibile trarre indicazioni specifiche. Questo studio, però, mette in evidenza alcuni punti che ci sono cari. In primo luogo, dimostra che il consumo dei ricevitori digitali incide significativamente sui consumi complessivi del sistema radio. Come abbiamo spesso occasione di spiegare, l'eventuale riduzione del consumo dei trasmettitori non si traduce automaticamente in un risparmio complessivo di energia, perché in larga parte è compensata dall'aumento dei consumi dei nuovi ricevitori digitali. Inoltre, essendo una fotografia della situazione britannica del 2018, lo studio non può tener conto delle possibili evoluzioni tecnologiche, come il 5G, e né della possibilità di digitalizzare gli impianti già esistenti sulle bande AM e FM. Sul tema dell'originalità dello studio si condivide il messaggio che, sulla base dei criteri di efficienza energetica, abbandonarsi totalmente nelle braccia della diffusione basata sull'IP non sia la cosa migliore, ma conviene mantenere comunque una diffusione via etere. Non tutti sanno che il 13 febbraio di ogni anno è la giornata mondiale della radio. E nel 2021 esiste la decima edizione, che avrà per tema tre aree di interesse da sempre per il mondo radiofonico, ossia l'evoluzione, l'innovazione e la connessione. Gli argomenti sono stati resi noti dall'UNESCO, invitando le stazioni radio di tutto il mondo a partecipare. Proclamata nel 2011 dagli Stati membri dell'UNESCO ed adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2012 come giornata internazionale, il 13 febbraio è diventata la giornata mondiale della radio. In occasione di questa giornata, nel 2021, l'UNESCO invita le stazioni radio a celebrarne il decimo anniversario, indicando tre temi principali, ossia l'evoluzione, l'innovazione e la connessione, con lo slogan dell'evoluzione che il mondo cambia e la radio evolve, dedicato a una parola di moda, resilienza, anche da parte della radio e dal tema della sua sostenibilità. Innovazione, la radio si adatta e innova. La radio ha dovuto adattarsi alle nuove tecnologie per rimanere in mezzo alla mobilità, accessibile ovunque e da tutti. E alla fine la connessione, che la radio si collega e che mette in evidenza i servizi radiofonici della nostra società, come disastri naturali, crisi socio-economiche, epidemie. Anche per questa settimana la trasmissione è finita. Chi volesse contattarmi per richiedere informazioni sul radioascolto oppure proporre argomenti per la trasmissione può indirizzare le richieste ai seguenti indirizzi: Gabrielli Dario, Viale della Resistenza 33B 30031 Dolo, Venezia, oppure scrivere un'email a radionotizie@hotmail.com. Aspettandovi la prossima settimana, vi mando un saluto. Un'emozione magica, letteralmente Radio Yoga Network, con più studi in Europa. Diffondi la sua voce, il suo messaggio e ti sentirai meglio. Letteralmente Radio Yoga Network presenta Archivio Bologna. Potete contribuire inviando i vostri MP3 a radioyoganetwork@gmail.com. Buon ascolto! Van Lon, dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori! Ciao a tutti, Radio Città Fuzico e questa è Balloon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Siamo lasciati un anno fa, nel 2019, ci eravamo lasciati nell'ultima puntata prima di Natale con i nostri consigli per il Natale, ma che valgono comunque anche dopo. Vi invito a recuperare quella bella puntata dei libri di Natale sul nostro sito www.radiovallun.info. Apriamo questo 2020 da sola. In studio oggi mi hanno lasciato da sola, ma non sarò da sola in realtà, perché per questa prima puntata ho pensato di andare a scandagliare un argomento che forse non abbiamo mai, abbiamo solo visto marginalmente in queste puntate di questi anni di Valloon, ovvero la storia orale. Abbiamo con noi una giovane storica che si chiama Giulia Zitelli Conti ed è autrice di un libro che può essere considerato di storia orale, che è Magliana Nuova, un cantiere politico nella periferia romana 1967-1985, uscito nel 2019, altro consiglio, altro libro da recuperare, per Franco Angeli Editore. Giulia tra poco ci parlerà di che cos'è la storia orale, che cos'è l'AISO, perché lei fa parte ed è molto attiva nell'Associazione Italiana Storia Orale, e ci dirà qual è la differenza appunto tra la storia orale e una semplice intervista. Diciamo che noi non abbiamo mai toccato questo argomento, ma in realtà facciamo storia orale ogni volta che cerchiamo di fare storia orale, ogni volta che intervistiamo una persona per farci raccontare un fatto storico. Come si intervista una persona? Qual è la differenza fra l'intervista e l'approccio della storia orale alla memoria? Ce lo dice Giulia. Per quanto riguarda la musica, ho scelto di cominciare questo 2020 con un album del 2019, uscito a ottobre 2019, che con la storia non c'entra molto, ma trattandosi di Nick Cave e The Bad Seed, di storia c'entra sempre. L'ultimo album di Nick Cave si chiama Ghost In, è appunto del 2019, e noi andiamo a cominciare questo ascolto con la traccia che si chiama Waiting For You. A dopo. On the beach in the cool evening air, well, so Sometimes it's better not to say anything at all. Your body is an anchor, never asked to be free. Just wanna stay in the business of making you happy. Well, I'm just waiting for you, waiting for you, waiting for you, waiting for you, waiting for you, waiting for you. Runs through the chapel, oh, the calendars are turning. A Jesus freak on the street says he is returning. Well, sometimes a little bit of faith can go a long, long way. Your soul is my anchor, never asked to be freed. Well, sleep now, take as long as you need. 'Cause I'm just waiting for you, waiting for you, waiting for you. Bentornate e bentornati sulle frequenze di Radio Città Fucico, questa è Vallun della vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Come vi avevo già annunciato, sono sola, ma anzi non sono così sola perché sono con una gradita compagnia. Oggi abbiamo per la prima puntata del 2020 la giovane storica Giulia Zitelli Conti. Ciao Giulia, grazie. Ciao Olga, grazie a voi dell'invito. Senti, noi volevamo, io più che noi perché sono sola, volevo parlare con te di una cosa insolita forse per chi non è addetto ai lavori e forse non è così solita anche per chi è addetto ai lavori, cioè di storia orale. La storia orale è una disciplina della storia, chiaramente, che tu ci spiegherai, ci aiuterai ad addentrarci un po' meglio in questa disciplina. Ecco, io ti chiedo subito una cosa, proprio da quasi da profana: che differenza c'è tra la storia orale e l'intervista? Perché in un primo momento sembra la stessa cosa, no? Sì, diciamo che l'intervista è una delle fonti della storia orale. E, innanzitutto, appunto, la ricerca, più che storia orale come disciplina, a noi piace parlare di approccio, perché appunto la ricerca storica con uso di fonti orali è un approccio allo studio del passato più che una specifica branca di studi. Ed è un approccio che ci consente di far luce sugli eventi del passato, su alcuni aspetti degli eventi dei quali non abbiamo magari altre fonti a disposizione, o perché sono perdute o perché sono inesistenti, o anche, questo è un caso molto comune, perché ad esempio non abbiamo fonti consultabili a causa di vincoli archivistici che operano, diciamo, nel momento in cui ci attingiamo a intraprendere la nostra ricerca. E quindi la storia orale ci consente di colmare queste lacune, ma non solo. Ci permette soprattutto di avvicinarsi, come forse nessun'altra fonte, proprio al cuore della storiografia, almeno se seguiamo la lezione di Mark Bloch. Certo. Cioè, vale a dire appunto le vite degli uomini e delle donne vissuti prima di noi. Vogliamo fare un esempio pratico, cioè che cosa fa uno storico, che sì, una storica come te, per esempio, cosa hai fatto tu per approcciarti a quello che ci ha appena detto, alla storia orale, come si fa? Beh, prima di tutto, diciamo, io nel mio caso mi sono approcciata per uno dei motivi di cui dicevo, e cioè per la mancanza di, l'impossibilità di consultare alcune fonti, per esempio sulla storia della lotta per la casa a Roma. Sì. Ho usato poi questa, diciamo, anche la raccolta di fonti orali in una ricerca sull'arte di strada degli anni 70, ma comunque in linea, diciamo, generale, al di là del mio interesse, un ricercatore che vuole usare fonti orali fa prima di tutto una cosa essenziale, che si predispone all'ascolto. E può sembrare una cosa banale, ma non lo è. Certo. Perché la raccolta di una voce della memoria non è un'intervista giornalistica, non è esattamente la stessa cosa, anzi, è fatta per chi provoca la produzione della fonte, soprattutto di silenzi, di attese, anche di piccoli segni di incoraggiamento, ed è porsi quindi, a mio parere, in empatia con l'intervistato o con l'intervistata. E essere curiosi, come dice Alessandro Casellato, delle vite degli altri. Infatti, no, io immagino che noi da storici, da storiche, vogliamo intervistare qualcuno perché ci interessa la sua vita, perché ci dice qualcosa che la fonte, diciamo, istituzionale, mettiamola così, le fonti normali non ci dicono. Ma io, come storica, come mi approccio alla persona? Perché la persona è fatta di memoria, la memoria può essere ballerina, può cambiare, i ricordi possono essere vari, non lo so, rispetto al momento di vita che si sta vivendo, appunto. Come faccio a scindere quello che serve a me, tra virgolette serve, e quello che non mi serve in una intervista di storia orale? Domanda da un milione di dollari. Wow, sì, infatti ci sarebbe da parlarne per diciamo in maniera un po' semplice, però sicuramente ci sono due momenti. C'è un momento in cui noi proprio ci sediamo, accendiamo il registratore, e uno degli approcci, quello che, diciamo, più usato da chi fa questo tipo di ricerca, è quello di raccogliere proprio storie di vita, quindi stare lì, accendere il registratore e ascoltare, ponendo certo delle domande iniziali, ma che possono essere anche banali, cioè raccontami cosa facevi, non so, nel 68, chi eri nel 68, per fare un esempio, no? Certo. E lì comincia un flusso di memoria che noi raccogliamo semplicemente. In quel momento siamo lì ad ascoltare. Certo, abbiamo, diciamo, i nostri interessi, i nostri motivi di ricerca, che l'intervistato ben sa, perché noi ci presentiamo ponendo, diciamo, il tema che ci sta a cuore, però può darsi, come dici benissimo tu, che il discorso devi, che ci siano errori della memoria, ma tutto questo fa parte proprio della fonte, della voce della memoria, ed è interessante anche capirlo, ma lo facciamo in un secondo momento, cioè quando torniamo a casa con la nostra registrazione. E allora la poniamo, diciamo, sulla nostra scrivania, la riascoltiamo, magari la trascriviamo, e in quel momento applichiamo la metodologia che è poi che applichiamo per qualsiasi altro tipo di fonte, quindi la critica filologica, e vediamo se ci sono, comparando anche con altre fonti, perché questo è un elemento anche essenziale, no? Certo. Verifichiamo se un fatto è vero o se non è vero, e se non è vero perché non è vero. E quello diventa un elemento di interesse in più, no? Capire gli errori della memoria. Questo è un tema grandissimo, diciamo, che, sì, sì, sì. Che oggi è particolarmente vivo e acceso per tutto il dibattito, no? Sulle fake news, eccetera, ma che in realtà, appunto, di nuovo Mark Bloch ci aveva insegnato ben tempo fa. Certo. E a quel punto, diciamo, valutiamo cosa ci è interessante per il nostro studio, cosa meno, ma diciamo, rimanendo sempre fedeli questo è il nostro, diciamo, un po' giuramento di Ippocrate alla fonte, no? Non adattandola chiaramente al nostro interesse, ma studiando cosa può interessarci e cosa no. Certo, mettendola e... anche, intrecciandola anche con le altre fonti, come hai detto tu prima. Certo, questo è un punto essenziale. Poi ci sono anche lavori fatti esclusivamente su, diciamo, su fonti orali, ma diciamo nell'uso più comune, che è quello appunto di una delle tante fonti per la storia, l'intreccio è fondamentale, ci aiuta a svelare. Però anche qui è una relazione, diciamo, bionivoca, nel senso una fonte ci aiuta a chiarire l'altra. Chiaro. Senti, a proposito di lavori, io andrei nello specifico del tuo lavoro, che è un libro che è uscito nel 2019, che si chiama Magliana Nuova, un cantiere politico nella periferia romana 1967-1985, uscito per Franco Angeli Editore. In questo caso ci racconti quello che tu, proprio nello specifico, hai fatto con il tuo libro? Sì, allora il libro innanzitutto è in realtà tratto dalla mia tesi di laurea magistrale che ho conseguito alla Sapienza e sulla quale poi ho lavorato per qualche mese per la pubblicazione, e fa parte di una collana della Franco Angeli che è diretta da Lidia Pizzoni e che si intitola Un laboratorio urbano, le molte identità di Roma nel Novecento, ed è il decimo libro di una serie appunto di testi nati per lo più come appunto da tesi di laurea o di dottorato sui quartieri di Roma, che fanno tutti uso di fonti orali. E quindi io sicuramente, diciamo, partivo già avendo l'opportunità di studiare tutto ciò che era stato fatto prima, no? Io ho utilizzato fonti orali, appunto, come dicevo, soprattutto per due aspetti principali. Il primo era legato alla questione della lotta per la casa, che a Magliana negli anni 60-70 e fino all'85 in realtà è stato appunto un cantiere politico, come dico, quindi è stato, diciamo, un vivaio di esperienze di autoriduzione, di occupazione di case, e al di là di alcuni documenti dell'archivio centrale dello Stato di natura, diciamo, relazioni di prefetti, sì, cose del genere, c'era poco. E quindi andare a interrogare invece le persone che hanno fatto parte di questo movimento ha svelato degli aspetti anche, per esempio, della vita quotidiana all'interno delle occupazioni abitative. E altrimenti parlavano tranquillamente di questa esperienza di vita? Sì, devo dire sì. C'è un fatto interessante, secondo me, che è la distanza generazionale tra me e loro. Mm-hmm. Perché questa è una cosa che si verifica in molti casi, no? C'è più facilità a raccontare un'esperienza così intensa a persone più giovani, che possono essere figli o nipoti praticamente. In questo caso io forse rientrerei ancora appunto nei nipoti, e c'è talmente tanta distanza per esperienze sia individuali che collettive che io devo dire non ho trovato difficoltà a raccogliere le loro testimonianze. Ed è stato anche bello vedere, perché questo lavoro io l'ho iniziato, diciamo, nel 2014, ho fatto le prime interviste e poi sono tornata, questa è un'altra, diciamo, buona pratica della storia orale, sono tornata ad intervistare magari le stesse persone, no? A distanza di tempo. Sì, esatto, a distanza di anni anche. Sì, sì. E c'è stato questo passaggio curioso per cui la prima volta che ho intervistato delle persone io faccio sempre scegliere il luogo dell'intervista all'intervistato, perché si deve sentire, diciamo, a proprio agio, ma anche perché già il luogo rivela qualcosa, no? E la prima volta che andavo mi hanno quasi tutti chiesto di vederci in spazi pubblici, che potevano essere ex sedi di partito oppure comitati di quartiere, eccetera. La seconda volta già come cosa, no? Che è già molto significativa, esatto. La seconda volta la maggior parte invece mi ha chiesto di vederci a casa. E quindi questo può voler dire tante cose, può voler dire che è cambiato, diciamo, lo spazio vissuto del quartiere anche nel giro di pochi anni, ma può voler anche dire che hanno sentito un'intimità maggiore fra me e loro e quindi mi hanno portato, diciamo, dentro il loro spazio domestico. Sì, certo, da interpretare. Senti Giulia, tu sei, tra le altre cose, anche una socia molto attiva dell'AISO. Ci dici che cos'è? Ci racconti qualcosa? Sì, certo. Allora, AISO è un'associazione piuttosto giovane in realtà, che si è costituita solo nel 2006, ma che ha ereditato in qualche modo un patrimonio di ricerche e riflessioni metodologiche di almeno 50 anni, perché diciamo, in Italia cominciamo a parlare di storia orale nel secondo dopoguerra. E adesso nasce proprio con l'intento di dar vita a una struttura in grado di raccogliere, di organizzare e di mettere in rete, questo è un aspetto che secondo me è molto interessante, singoli ricercatori e ricercatrici, enti, istituti, associazioni che si occupano di fonti orali a 360 gradi, dalla loro diciamo produzione fino alla conservazione. L'AISO, scusami Giulia, lo diciamo per gli ascoltatori e le ascoltatrici, Associazione Italiana Storia Orale. Che è attualmente presieduta da Alessandro Casellato e la direzione scientifica è affidata ad un direttivo di cui fanno parte proprio da un mesetto e mezzo, diciamo, perché è stato appena rinnovato, Stefano Bartolini, Bruno Bonomo, Bianca Pastori, Gabriele Moscaritolo e Jessica Matteo. E, negli anni precedenti, prima della presidenza di Casellato, la stessa carica è stata ricoperta da Gabriella Gribaudi e Giovanni Contini, che sono appunto nomi molto importanti della storia orale in Italia. E che cosa fate voi? Così, curiosando dell'AISO. Allora, AISO si organizza e partecipa a convegni, a seminari, a tavoli di lavoro sul tema della storia orale, chiaramente, per citare i più recenti, nel 2018 un convegno internazionale a Napoli intitolato L'era del testimone e nel 2019 a Torino il convegno Fonti orali, archivi e rigenerazioni. E dal 2010 inoltre collabora annualmente al seminario Ascoltare il lavoro organizzato dall'Università Ca' Foscari di Venezia, al Dipartimento di Studi Umanistici e IRES Veneto. E nel 2014 ha costituito un tavolo di lavoro con l'obiettivo di stendere delle linee guida che potessero aiutare i ricercatori ad affrontare tutti i nodi deontologici e giuridici legati al trattamento delle fonti orali, e ha prodotto un documento che si chiama Le buone pratiche, che si trova sul sito aisitalia.org e che è attualmente in fase di aggiornamento con l'uscita del nuovo decreto europeo in materia di privacy. Ci sono appuntamenti per questo gennaio di AISO? E a gennaio, il 18 di gennaio, ci sarà un seminario dei soci di AISO a Bologna, all'Istituto Parri, sul tema delle scuole orali, di storia orale. E questa è forse appunto una delle attività più di successo, diciamo, dell'associazione. Sì. Le scuole AISO sono dei corsi di formazione che vengono attivati in collaborazione con associazioni o istituti interessati a sviluppare la metodologia della storia orale, i cui programmi, il cui format, diciamo, i temi e i tempi anche vengono stabiliti proprio a seconda delle richieste e dei contesti locali. Negli anni passati sono state fatte scuole di storia orale nella provincia di Avellino, a Roma, a Torino, a Forlì, a Massa Carrara, a Padova, a Corleone e a Bologna. Esatto. E a Bologna c'è stata a settembre, lo dico da alunna della storia orale, una bellissima scuola di storia orale al Pilastro. È stata molto molto bella, quindi vi consiglio anche da non storici di andare, c'erano molti non storici tra il pubblico della scuola di storia a settembre. Senti Giulia, ultima cosa telegraficamente, se ci dovessi consigliare un paio di libri per affrontare la storia orale, per approcciarci alla storia orale, cosa ci diresti? Allora, sicuramente un testo, diciamo, di quelli classici è di Contini Martini, Verba Manent, e poi utilissimo è anche un piccolo manuale, chiamiamolo così, di Bruno Bonomo che si chiama Voci della Memoria. E nel 2018 è uscito un bellissimo libro di Francesca Socrate, 68, due generazioni. E un altro classico è quello di Nuto Revelli, Il mondo dei vinti. Sì. E di Sandro Portelli, chiaramente posso citare fra i tanti una raccolta sugli studi di storia orale chiamato appunto Storie orali, e il volume di Casellato, Il microfono rovesciato, 10 variazioni sulla storia orale, E così, insomma, per invece affrontare uno dei temi di cui che non sono emersi finora, ma che invece su cui la storia orale ha dato un suo importante contributo, il testo di Paola Stelliferi, Il femminismo a Roma negli anni 70, costruito soprattutto appunto su fonti orali. Giulia, senti, grazie mille per questa bella chiacchierata, e noi andremo a studiare con grande passione questi libri di storia orale, e magari ci vediamo in una scuola di storia orale. Intanto vi ricordo il libro di Giulia Zitelli Conti, che si chiama Magliana Nuova, un cantiere politico nella periferia romana 1967-1985, di Franco Angeli Editori del 2019. Grazie Giulia. Grazie a voi. Noi continuiamo a sentirci una traccia dall'album Ghost Skin di Nick Cave and the Bad Seed. If I could sail a galleon ship long lonely ride across the sky, seek out mysteries while you sleep, and treasures money cannot buy, for you know I see you everywhere, a servant girl and empress. My galleon ship will fly and fall, fall and fly and fly and fall, deep into your loveliness. And if we rise, my love, before the daylight, a thousand galleon ships will sail ghostly round the morning sun. Grazie ancora Giulia, noi abbiamo sentito l'ultima traccia di Nick Cave e The Bad Seed, e non mi resta che augurarvi buon pomeriggio sulle frequenze di Radio Città Fujiko e di invitarvi ancora una volta su www.radiovalun.info per andare a recuperare i nostri podcast delle passate stagioni e quelli del 2019. Ciao a tutte e tutti da Olga. Voglia di Talk Radio? Ascolta anche tu, letteralmente, Radio Yoga Network. Insieme è meglio. Radio Krishna è questa. Radiofoniche staticamente parlando, o meglio, ascoltando. Ovunque in Italia non c'è paragone. Fuori dal tempo. selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Eccoci di nuovo insieme per ascoltare questa selezione da archivio. E quest'oggi voglio subito cominciare con diciamo il proseguimento dello speciale Italia di Somal Kamaraj, che già abbiamo sentito altre volte. Questo speciale Italia, insomma, Kamaraj ci raccontava come la coscienza di Krishna è arrivata in Italia. Certamente sarà interessante per tutti conoscere come questa, diciamo, grande misericordia, che naturalmente parte da Krishna, Dio, la persona suprema, poi attraverso i maestri spirituali della nostra catena disciplica, fino ad arrivare a Srila Prabhupada, si sia introdotta dall'India in Occidente. Bene, ormai molti di voi sapranno che è stato Srila Prabhupada, sua divina grazia, e Srila Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada, il nostro maestro spirituale fondatore, che a tarda età, senza badare a niente, né al corpo, né ad agiatezze materiali di nessun tipo, si è trasferito dall'India, precisamente da Vrindavana, una terra meravigliosa, in America, in mezzo al Kali Yuga, in piena regola. Kali Yuga è questa età di discordia, ipocrisia, di violenza, di cose brutali. E da lì si è diffusa la coscienza di Krishna in tutto il mondo. Però naturalmente sono stati i discepoli di Srila Prabhupada che così, proprio veramente volenterosi, pieni di voglia di diffondere anche loro la coscienza di Krishna, e così di soddisfare il proprio maestro spirituale, si sono lanciati nelle varie nazioni. E per quanto riguarda l'Italia, Somaka Swami, Somaka Maharaj, era uno di questi pionieri. Chiaramente arrivati in Italia, Somaka Maharaj ed altri pochi hanno dovuto veramente aprire la breccia in mezzo veramente allo sconosciuto. Veramente la coscienza di Krishna era completamente sconosciuta, la gente naturalmente guardava con tanto d'occhi, ma i devoti di Krishna sono completamente assorti nella loro missione di predica e il desiderio di diffondere la coscienza di Krishna in tutto il mondo, per il bene della gente. Sentiamo che anche in Italia i devoti di Krishna si sono appoggiati a quel, diciamo, ambienti cosiddetti di controcultura. Perché? Perché come dovunque in quell'epoca, era proprio in quell'ambiente dove esisteva la ricerca in tutti i sensi e naturalmente anche nel senso spirituale. Comunque andiamo a sentire direttamente dalla voce di Somaka Maharaj come la coscienza di Krishna si stabilì in Italia. E si parte da una famosa conferenza tenuta in un'altrettanto famosa libreria. Continuiamo questa panoramica sull'arrivo della coscienza di Krishna. Siamo arrivati alla non libreria. Non libreria, folla che sta aspettando, cioè la non libreria, conferenza annunciata per le ore 21. La gente è lì puntuale. Milano, la gente è abituata alla puntualità. quindi alle 20:35 già c'è un bel capannello di persone che aspettano. Alle 21 meno 5 minuti c'è già molta gente, la sala è piena. E c'è un gruppo di persone anche fuori che sta aspettando. E lì c'è solo un devoto, un devoto solo, quel famoso Chaitanya Pada, che avevo detto prima, il quale con accento visibilmente e notoriamente partenopeo diceva, raccontava come il suo maestro spirituale, il mio maestro spirituale, è arrivato in New York a diffondere la coscienza di Krishna, e lui stava raccontando, no, con le sue parole semplici, sincere, come il suo maestro spirituale era arrivato per la prima volta nel 66 a New York e aveva cominciato da solo, senza nulla, senza soldi, senza niente, a diffondere la coscienza di Krishna, come avesse fatto poi dei templi in tutta l'America, come i devoti fossero arrivati in Europa, prima in Inghilterra, poi in Francia, poi in Italia. E intanto la gente aspettava le 9, le 9:10, le 9:15. 9:20, le 9:30, le 10 meno un quarto, e ancora la conferenza non era iniziata. Cos'era successo? Era successo che la conferenza, che era annunciata per le 9, il conferenziere, quel ragazzo vestito di bianco che passava sotto i portici di corsa, no? Quello che distribuiva le riviste di corsa, io, no? Il conferenziere era andato a Roma, perché? Perché noi abbiamo una abitudine, una consuetudine, che a ogni conferenza o impegno pubblico che abbiamo, vogliamo anche dare del prasadam, così come adesso al Govinda potete gustare del cibo delizioso che si chiama prasada, prasadam cosa vuol dire? Vuol dire un cibo che è stato offerto a Krishna. Allora, come vi ho detto prima, noi stavamo sempre in quella famosa pensioncina sulla piazza della stazione, E allora, in quella pensioncina c'avevamo un fornelletto dove facevamo, sì, lì qualcosa da mangiare per noi, però preparare delle preparazioni veramente buone, degne di essere distribuite, non eravamo in grado. Quindi io ero partito ad andare a Roma, dove nelle nostre cucine del Tempio di Roma, un po' più ben attrezzate, mica tanto, ma un po' più ben attrezzate, avevamo preparato del prasada, e dei dolcetti, delle cose buone, cose che potrete assaggiare molto meglio naturalmente e in grande varietà al Govinda, comunque appunto ho preparato queste preparazioni e io col treno ero venuto su per fare la conferenza, avevo portato con me questi vassoi pieni di prasada, se non che Ferrovie Italiane un pochettino in ritardo, il treno c'aveva niente poco di meno che 2 ore di ritardo, quindi alle 10 sono arrivato alla stazione centrale di Milano e avrei dovuto iniziare la conferenza alle 9, dovevo arrivare alle 8, avevo un'ora di tempo per arrivare alla sala della conferenza, cioè alla non libreria, quindi ero in perfetto orario. Ma il treno in orario in ritardo di 2 ore, quindi sono arrivato alle 10, pensavo adesso arriverò lì, non c'è più nessuno, arrivo fuori, naturalmente appena uscito dalla stazione un'altra difficoltà, ed è una lunghissima coda alla fermata dei taxi, no? Perché treni in ritardo, quindi tantissima gente che arrivava a prendere i taxi, c'era la coda, non si poteva passare avanti la coda, c'erano i vigili con controllo, insomma via di corsa a piedi, di corsa attraversare la piazza della stazione e cercare di bloccare un taxi che passasse per strada. Con questi cabaret c'erano i devoti che mi aspettavano alla stazione, mi aiutavano, alla fine riusciamo a bloccare un taxi, saltare sul taxi, via di corsa verso una non libreria. Arriviamo alla non libreria, oramai erano quasi le 10:30, io pensavo non c'è più nessuno, e invece la gente era lì che ci aspettava. Questo dimostra quanto Milano stesse aspettando la coscienza di Krishna, più ancora che i biglietti della lotteria, Allora, benissimo, qui inizia la conferenza, arriviamo lì, mi siedo su un cuscino, tutti gli altri, anche loro, gli spettatori, tutte le persone lì sedute, e incominciamo a cantare un bhajan, quello che noi cantiamo un bhajan, cioè si canta accompagnandosi con degli strumenti, una mridanga, un tamburo a due mani e dei kartal, cioè dei piattini, dei cembali. Stavamo appunto cantando Hare Krishna, cantiamo Hare Krishna, e poi dopo aver cantato Hare Krishna io inizio a parlare e a spiegare la coscienza di Krishna alle persone che erano lì presenti per conoscere la coscienza di Krishna, no? E dopodiché, dopo aver terminato, chiedo se c'erano delle domande, molte persone incominciano a farmi delle domande, tra i quali un carissimo personaggio che allora ancora non conoscevo, che incomincia a farmi moltissime domande, personaggio che sentite ora dai microfoni di RKC, che è appunto Gora Krishna Das, il quale allora ancora, dopo aver visitato l'India, aver visto tanti yogi, essere stato un po' disilluso da tutti questi yogi, l'unica cosa che gli era rimasta impressa è che un yogi gli aveva detto non devi tagliare i capelli nella barba fin tanto che non incontri il maestro spirituale. Lui l'aveva fatto, difatti aveva i capelli lunghissimi, barba lunghissima, si vede che era già un bel po' che aspettava di incontrare un maestro spirituale. Meno male che è venuto alla non libreria, così ha ascoltato la filosofia della coscienza di Krishna, ha trovato il maestro spirituale, dopo un po' di tempo si è appunto tagliato i capelli ed è diventato Gora Krishna Das. In quell'occasione lì c'era Gora Krishna, c'era anche sua moglie, poi c'era anche Krishna Chaitanya, a quell'epoca era ancora Claudio Rocchi, e anche lui con la moglie e poi altre persone, insomma, quella conferenza, la non libreria, per esempio se voi andate al Govinda, il capocuoco del Govinda, Mahavakya, anche lui era la non libreria quella sera lì, li trovate tutti al Govinda se andate adesso, erano tutti lì alla non libreria ad ascoltare e quindi è stata una loro esperienza interessante, perché sono tutti diventati devoti di Krishna. Allora, cosa succede? Mi fanno delle domande, tante domande, specialmente con la Krishna mi faceva le domande. Alla fine io dico, adesso cantiamo ancora Hare Krishna, però cantate anche voi, no? E lì c'era Gora Krishna, dice sì, quando è che cantiamo ancora? Dico adesso cantiamo tutti insieme. E lì io incomincio a cantare. E la cosa era, attenzione, è arrivato le 10:30, è iniziata la conferenza, anzi 10:30 o qualcosa di più, è iniziata la conferenza, erano quasi le 11, domande, risposte, insomma, si incomincia a cantare che era già mezzanotte o qualcosa in più. Cominciamo a cantare tranquillamente come prima il bhajan. E in un certo momento tutti questi qui che incominciano a cantare, no? Vedo, c'era tutto un gruppetto sulla destra della sala, dal mio punto di vista era la destra, da loro era la sinistra, comunque noi stiamo a fare questioni di destra o di sinistra, noi siamo per tutti quanti, anche per il centro, noi vogliamo far diventare coscienti di Krishna tutti, sia la destra che la sinistra che il centro. Allora, questi ragazzi, soprattutto il gruppetto appunto dove c'era ancora Krishna, che cantavano, no? E io a sentire loro che cantavano Hare Krishna mi sono entusiasmato, no? Come dicono i devoti dicono è andato in estasi, una cosa del genere, no? Cioè mi sono entusiasmato molto e ho cominciato a cantare e a suonare con più entusiasmo, con più vigore. A un certo momento mi sono alzato in piedi, gli altri devoti si sono alzati in piedi, ho aumentato il ritmo, ho aumentato il tono, ho aumentato il volume, non c'avevo amplificatore ma comunque ho aumentato il volume, ho fatto un girino di gola, ho aumentato il volume e via a cantare e ho incominciato a ballare. E tutti questi qua si alzano in piedi anche loro e incominciano a ballare anche loro, perché io incomincio a saltare e loro incominciano a saltare. E lì è venuto fuori un kirtan, quello che noi chiamiamo un kirtan, no? Di quelli proprio memorabili, no? In cui proprio tutti quanti hanno assaporato l'estasi, il piacere di cantare Hare Krishna. A questo punto cosa è successo? A questo punto è successo quello che nessuno avrebbe mai previsto, che un inquilino dei piani superiori, infastidito dal canto, è uscito sul balcone e ha cominciato a sparare dalla finestra e tutti i dirigenti della non libreria, preoccupatissimi, dicevano smettete, basta, basta, basta. E niente, io nemmeno me ne accorto che quello lì aveva sparato, io continuavo, me l'hanno detto dopo che c'erano stati gli spari, io continuavo a cantare entusiasta, no? Niente, e finisce lì la non libreria, conferenza, kirtan, ripartiamo, io ritorno a Roma, gli altri devoti continuano qui a distribuire libri, le riviste, e il giorno dopo, appunto, Gora Krishna, che fa delle ricerche telefoniche, finché riesce a trovare i devoti alla stazione, va a trovarli, pensate un po' che lui ha chiesto a quelli della non libreria, perché lui la mattina si è svegliato e ha detto, ma io devo trovare questi qua degli Hare Krishna, li devo parlare, perché questi qui mi interessano, no? Allora ha incominciato, ha telefonato a quelli della non libreria, gli dice, senti un po', ma gli Hare Krishna dove stanno? Questo dice, ma io non lo so mica. Dice, io ho sentito dire che stanno lì dalle parti della stazione. Allora Gora Krishna prende la guida e incomincia a telefonare agli alberghi di prima categoria, e gli Hare Krishna non c'erano. Allora telefona agli alberghi di seconda categoria, gli Hare Krishna non c'erano, terza categoria non c'erano nemmeno, quarta, quinta, insomma, negli alberghi, lì, proviamo le pensioni, pensioni di prima categoria, niente, seconda categoria, niente. Cioè, alla fine la pensioncina, nella pensioncina, vicino alla stazione, Gora Krishna trova i devoti, dice, ah sì, quelli di Roma, quelli con la testa pelata, sì sì, stanchi, stanchi. Allora Gora Krishna parte, va alla stazione a trovare i devoti e lì è incominciato il suo primo incontro con i devoti, che poi è terminato a Roma diventando devoto di Krishna. Bene, questa è la non libreria, ma le cose non finiscono qui. E no, la coscienza di Krishna si sposta a Milano, appunto, con diciamo con l'arrivo di Gora Krishna, il quale da prima si avvicina ai devoti e incomincia a partecipare alle attività devozionali da casa sua. Casa sua che in quel periodo era un appartamentino in via Paolo Sarpi. Allora, via Paolo Sarpi è stato il primo centro degli Hare Krishna a Milano. Se bisognerà mettere una lapide, un'insegna, nel futuro i cittadini riconoscenti, i cittadini milanesi riconoscenti del rilievo della coscienza di Krishna, metteranno senz'altro una targa commemorativa alla non libreria, una targa commemorativa in via Paolo Sarpi, probabilmente anche una targa commemorativa nei portici del Duomo, dove ogni giorno io correvo in su e in giù per distribuire quelle riviste. Comunque via Paolo Sarpi incominciano i primi approcci con le persone, si incontravano per strada, gli si dava le riviste, gli si invitava appunto a venirci a trovare a via Paolo Sarpi. Nel frattempo, anzi prima ancora di questo, prima che Gora Krishna veramente decidesse di unirsi e di appunto di usare il suo appartamento, io avevo continuato in questa onda di conferenze, in questa onda di conferenze abbiamo iniziato a fare delle conferenze qui a Milano, ne ho fatte un altro paio di conferenze, una in un centro di yoga, da un nostro carissimo amico Carlo Patria, che mi ha fatto fare una conferenza nel suo centro di yoga, e poi un'altra volta sempre con lui in una sua cascina che lui aveva fuori Milano, dove portava i suoi allievi a fare i suoi ritiri, ritiri di yoga. Meno male che sono andato lì, e quella volta quel ritiro era veramente un ritiro yoga, perché si è parlato della verità suprema, Sri Krishna, perché la fine dello yoga non è solo quello di rilassarsi, di fare la ginnastica, ma il fine dello yoga è quello di diventare coscienti di Dio, e di conoscere Krishna. Il fine dello yoga è quello di conoscere Krishna, Dio, la persona suprema, Krishna, Dio è la persona suprema. Perché il fine dello yoga è quello di conoscere Krishna? Perché yoga vuol dire unirsi con il supremo, eh? Non vuol mica dire fare la ginnastica, non vuol mica dire nemmeno una marca di succhi di frutta. Yoga vuol dire, yoga vuol dire unirsi con il supremo, con la verità assoluta, con la verità suprema. E lì appunto due conferenze, dopodiché arriva Gaurakrishna che ci offre appunto l'opportunità di predicare attraverso il suo appartamento. Il suo appartamento di via Paolo Sarpi, e qui quindi incominciamo la domenica a portare le persone, a dargli il prasadam e a parlargli di Krishna. Quelli interessati poi venivano a Roma, nel nostro centro, a Roma, che si era ingrandito, anzi spostato al viale di Porta Ardeatina, da un piccolo centro che era prima in Piazza Lodi, sarà poi spostato a Viale di Porta Ardeatina, in centro molto bello già a quel tempo, molto bello. Mandavamo i devoti lì, così è arrivato appunto Malavacchia, che adesso è capocuoco al Govinda, e sono arrivati tanti devoti. Dopodiché si preparava un altro avvenimento speciale, comunque... un po' per volta, perché è una cronaca molto interessante, molto intensa. Diamo la possibilità a tutti di prendere appunti e di ricordarsi bene questa cronaca, Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Benissimo, quello sì che era un avvenimento grandioso, la venuta della coscienza di Krishna in Italia. E noi come anime spirituali nate in questo paese, l'Italia, siamo ancora riconoscenti, eternamente riconoscenti a questi devoti che hanno fatto questo, tutti questi sforzi, naturalmente, perché non è privo di sacrificio, una cosa del genere, e ci hanno portato questo dono meraviglioso. In effetti non c'è niente di paragonabile in questo mondo, nessuna ricerca, nessun sacrificio, nessuna avventura, nessuna scoperta che sia paragonabile alla ricerca spirituale, al portare attraverso i sacrifici la coscienza di Krishna agli altri, alla scoperta di questo meraviglioso, stupendo mondo, il mondo degli Hare Krishna. Sentiamo adesso da uno speciale Italia di Krishna Chaitanya Das, che partendo appunto da una ricerca fatta da uno studioso sulla piramide di Cheope, la grande piramide, questo tipo di ricerche che diciamo che assorbono anche per vite intere questi scienziati, li portano vicino a così a idee a volte fantascientifiche, che magari chissà potranno anche avere dei fondamenti reali, ma che però diciamo non li avvicina, almeno non di tanto, alla scoperta della verità e tantomeno alla felicità. Però i devoti di Krishna riescono a trarre da tutte le ricerche, da tutte le scoperte, da tutti i viaggi, da tutte le avventure, il nettare, come si dice. I devoti di Krishna sono come cigni. Noi sappiamo che questo animale, il cigno, ha una particolare capacità ed è quella di separare il latte dall'acqua. E anche i devoti sono così, perciò sentiamo Krishna Chaitanya Das cosa ci dice. Radio Krishna Centrale va avanti, abbiamo fatto questa suggestiva ipotesi dello sgretolamento della grande piramide che liberasse una torre misteriosa piena di conoscenza, messa lì da migliaia di anni in attesa che il vento facesse il suo lavoro di sgretolamento su questa pietra calcarea che fa la piramide esterna, per liberare invece quel granito possente che nel tempo, conservato e protetto, era lì a dire e a dare la sua conoscenza. Questa ipotesi suggestiva, regalata dallo studio e dall'attenzione critica e archeologica dell'ingegner Mario Pincherle, ci ha avvicinato a un parallelo altrettanto suggestivo, ma comunque assolutamente meno fantastico perché reale, che è quello invece che attribuisce la forza apparente della piramide esterna al corpo, e la realtà mistica, esoterica, reale, esistenziale, spirituale e soprattutto eterna, a quello che corrisponde, nell'ipotesi dell'ingegnere, alla torre interna, e che è invece il vero solido basamento, la fondazione della persona, dell'individuo nel tempo che si svolge eterno, appunto l'anima spirituale. Ora a considerare un avvenimento di recente. A Roma, Hotel Maidas, si è svolto il 4° congresso nazionale per la ricerca dei nuovi valori spirituali. Si è considerato, e meglio, è stato considerato da una esimia schiera di interessanti ospiti, preparatissimi docenti, teologi e anche studiosi e ricercatori di ogni fede e confessione, è stato appunto considerato che esistono cosiddetti nuovi movimenti emergenti spirituali, e in questi è incluso all'occhio e all'analisi della stragrande maggioranza della gente anche questo nostro movimento per la coscienza di Krishna, che si basano invece su profondissime, antichissime, a volte anche più antiche basi di quelle su cui si basano le cosiddette religioni tradizionali, e che non solo appunto hanno quindi queste grandi referenze credenziali che vanno considerate e riconosciute da tutti, ma meritano anche grande attenzione spesso e soprattutto per il tipo di proposta reale di vita quotidiana che portano avanti, e non soltanto per un'elaborazione, una presentazione di dati o di tesi che restano spesso così fumose quante le teorie. Alla fine di questo congresso nazionale tenutosi all'Hotel Midas di Roma, che ha visto così considerazioni, relazioni e interventi veramente interessanti, colti anche, molto preparati, pieni di riferimenti storici e sociali e sociologici da parte degli intervenuti, appunto dei relatori invitati a fare appunto relazioni e a presentare tesi che poi si offrissero alla discussione. Alla fine di questo congresso, dicevamo, abbiamo raccolto qualche intervista fra alcuni dei partecipanti, cercando di capire qual era stato il senso complessivo di quell'esperienza, se era apparsa positiva, se era apparsa negativa, utile o inutile. Quindi direi senz'altro di passare all'analisi di alcune di queste interviste che si presentano e si spiegano anche da sole. Benedetta Ferroni, delle Suore Oblate del Sacro Cuore di Gesù. In questi due giorni, ecco, io ho trovato molto positivo l'incontro, il fatto anche di questo clima di amicizia che si è instaurato, anche questa apertura così con molta semplicità e anche con molta fraternità, anche una conoscenza più, beh, non dico approfondita perché è troppo poco, ma insomma una conoscenza un pochino più ampia, diciamo. Forse, ecco, come se c'è qualche appunto da fare o un certo disagio che posso provare io personalmente, in quelle parole che ci ha detto Molari alla fine della sua relazione, ma questo è un appunto che faccio a me come religiosa e come membro della Chiesa Cattolica, perché ci ha detto la vera sfida che oggi questi nuovi movimenti ci pongono è la sfida della santità. Dove sono questi uomini nuovi, dove sono questi uomini maturi, e io posso dire donne nuove, donne mature, eccetera, cristiane autentiche, che oggi popoliamo le strade del mondo, e forse in questo sento una terribile carenza, quindi vado via anche con degli interrogativi un po' più forti. Dove sono questi uomini nuovi? La suora Benedetta, che abbiamo conosciuto come buona e gentile in questi due giorni che abbiamo passato insieme in questo congresso, anche poi in dialoghi e considerazioni fatte privatamente, ribadiva con grande sincerità questa sua riflessione qui esposta. Dove sono questi nuovi uomini che ogni scienza spirituale, ogni religione, ogni pratica che dovrebbe puntare all'avvicinamento verso Dio e la persona suprema, e quindi nel corso di questo avvicinamento anche lavorare a migliorare le qualità complessive dell'individuo e della persona, che quanto più si avvicina al fuoco, tanto più sente caldo, tanto più si avvicina alla luce, tanto più vede chiaro, tanto più si avvicina a Dio, tanto più realizza chi è. Come è fatto quest'uomo nuovo? Il Signore Beato disse, Bhagavad Gita, capitolo 16, verso 1, 2 e 3. L'assenza di paura, la purificazione dell'esistenza, lo sviluppo della conoscenza spirituale, la carità, il controllo di sé, il compimento dei sacrifici, lo studio dei Veda, l'austerità e la semplicità, la non violenza, la veridicità, l'assenza di collera, la rinuncia, la serenità, l'avversione per la critica, la compassione, l'assenza di cupidigia, la dolcezza, la modestia, la ferma determinazione, il vigore, il perdono, la forza morale, la purezza, l'assenza di invidia e sete di onori. Queste sono le qualità trascendentali degli uomini virtuosi, degli uomini di natura divina. Dove sono questi uomini? RKC è la radio migliore, anche i bambini lo sanno. che siano i bambini che sono adesso bambini, gli uomini di cui parlavamo, molti dei bambini di adesso forse saranno questi uomini, alcuni lo saranno di certo, altri uomini rari, pochi lo sono già, tutti comunque dovrebbero puntare alla conquista di queste grandi qualità fondamentali. Grandi qualità fondamentali che non soltanto sono virtù nel senso tradizionale del termine, ma sono soprattutto quella virtù, quella ricchezza, quella potenza che sanno fare di un'esistenza ordinaria, di un'esistenza tutto sommato in mezzo al tempo e alla molteplicità delle esistenze, banale, in mezzo al tempo sfaldabile e che si sfalderà proprio come nell'ipotesi di quella grande piramide di cui dicevamo precedentemente. Ecco, quella virtù, quella ricchezza, quelle qualità sono quelle che fanno la vita sensata, la vita realizzata e realizzato l'individuo, la persona che quella vita vive. Che quella vita appunto vive. Baba Sisha Dei. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Eh sì, dove sono questi uomini santi? Ci sono. C'è stato un santo in questo XX secolo, Srila Prabhupada. E ci sono anche tante altre persone che stanno sottoponendosi a questo processo di santificazione, diciamo, che si può dire anche un processo di purificazione. Infatti niente paura, perché in effetti ci sono tante storie anche dei santi del cristianesimo che ci così raccontano come molte di queste persone che poi sono diventate santi venissero magari prima da una vita così, diciamo, come minimo normale, di persone normali, normali peccatori. Una di queste storie molto bella è quella di Francesco, San Francesco d'Assisi. E così improvvisamente è dovuto a chissà cosa, probabilmente non è stato nemmeno quell'avvenimento particolare della sua vita. Naturalmente un momento così, un balzo di questo tipo, che avvicina una persona così tanto a Dio, la persona suprema, certamente non è frutto di una sola vita. Quindi anche noi naturalmente non stiamo a contare sulle vite precedenti, però tutti noi devoti di Krishna, e anche voi che siete tutti potenziali devoti di Krishna, se iniziate questo processo di purificazione attraverso il canto del Mahamantra di Krishna, chissà, non è detto che in questa vita noi ci qualifichiamo per tornare da Krishna. In effetti Srila Prabhupada ci ha detto che se rimaniamo devoti fino alla fine della vita, cioè questo significa se seguiamo i principi regolatori della religione, se cantiamo il Mahamantra di Krishna fino alla fine della vita, chi è che non ci garantisce che al momento della morte non ci ricordiamo di Krishna, Dio, la persona suprema? Questo processo di purificazione comincia da cose che magari ci sembrano piccole, ma che non sono poi tanto piccole. Ad esempio, ci parlava dei principi regolatori, e uno di questi, il primo, è quello di diventare vegetariani. Noi non smetteremo mai di insistere su questo punto, perché è veramente uno dei punti principali. Non si può nemmeno pensare di cominciare la vita spirituale, quella con la V e la S maiuscola, se non si diventa vegetariani, cioè se non si comincia a risparmiare dolore alle altre entità viventi Dolore causato semplicemente per gratificarci un gusto, il senso del gusto. Che poi alla fine, diventando vegetariani, scoprirete che non era poi nemmeno tanto una grande gratificazione. In realtà il senso del gusto si gratifica molto di più prendendo prasada, cibo offerto a Krishna. E sentiamo Manu Nadas che ci dirà anche qualcosa su questo argomento del mangiare o non mangiare carne. Quindi, popoli italiani, ecco, io vi consiglio sinceramente, da parte del mio maestro spirituale Bhaktivedanta Swami Prabhupada, di non mangiare carne, perché tanto non vi serve al vostro corpo, non vi serve per la vita, non vi serve per sviluppare fini sentimenti con i quali capire valori più alti di vita, insomma non vi serve a niente, e al contrario, a detta di molti, causa grandi danni al corpo, alla psiche e soprattutto alla nostra vita spirituale. Oggi si parlava per esempio di una persona al telefono, una persona che è reputata una santa nel mondo, è della Maria Teresa di Calcutta, la conoscete? Premio Nobel per la pace. Ecco, questa persona che mi parlava di Maria Teresa di Calcutta è stata con Maria Teresa per molti anni addirittura ed ha lavorato con lei, ha fatto del benessere per tutti. Maria Teresa di Calcutta, sapete, è un'indiana che però ha abbracciato la fede religiosa cristiana. Ora, però, la Maria Teresa qui mangia carne. Allora, premio Nobel per la pace, però vorrei sentire cosa ne dicono gli animali. Io vorrei proprio sapere se gli animali avrebbero dato a Maria Teresa il premio Nobel per la pace. Allora, il genere umano, fra virgolette, il genere animale non avrebbe mai conferito a Maria Teresa di Calcutta il premio Nobel per la pace, perché la Maria Teresa di Calcutta, come tutti gli altri, sono determinatamente impegnati in un genocidio sistematico attraverso mattatoi del genere animale, umano, degli animali, appunto, e dopo averli ammazzati, come se non bastasse averli uccisi, così come Hitler aveva messo dentro i lager, aveva messo ebrei, aveva messo tutti i suoi nemici e li metteva dentro questi lager e poi li infornava o ne faceva altre cose, però perlomeno per quanto io ne so, poi non se li metteva sul piatto gli ebrei uccisi, cioè capiva che quegli ebrei erano corpi, cadaveri praticamente, non li faceva a pezzi e non se li mangiava, perché, come dicono i Veda, mangiare carne è un'attività da rakshasa. Rakshasa significa una delle specie umane più degradate che si occupano di mangiare carne e sangue, esattamente come i vampiri. I vampiri gli piace mangiare sangue, no? Così oggi agli uomini si va a vedere il film degli orrori, ne vanno a vedere il film degli orrori che vede appunto Dracula che succhia il sangue, però questa è una cosa che si ripete ogni giorno, in ogni casa, di ogni paese, di ogni città, di ogni nazione di questo mondo, dove tutti sono occupati a succhiare il sangue e cibarsi di cadaveri, appunto corpi morti. Quindi il vero premio Nobel per la pace non si può dare a una persona che mangia la carne, perché questo non è pace. Uccidere animali non è affatto pace, anzi è una grande violenza che noi rifiutiamo completamente. Thank you. Bene, allora Mimmo, il nostro carissimo amico Mimmo, è amico anche se è un macellaio, senz'altro, ripeto, noi non siamo contrari alle persone che fanno queste cose, siamo contrari all'azione in se stesso, quindi il nostro carissimo amico Mimmo, che se mi sta sentendo in questo momento lo invito a venire qui al Tempio e a, gli daremo, possiamo fare un bel pranzo insieme, pranzo però come lo diciamo noi, non come dice lui. Ci dispiace che non siamo suoi clienti, magari se veniva marmellate saremmo stati senz'altro suoi clienti. È una bella fabbrica di marmellate, Mimmo, vuoi aprire una bella marmellateria, eh? Va bene, comunque a parte gli scherzi noi lo invitiamo a venire al nostro tempio per un bel pranzo vegetariano e gli faremo vedere che non gli mancherà niente, sulla tavola di un vegetariano non manca il gusto, non manca ciò che è necessario per la vita e anche per la lingua. Ecco, ora io direi che questi soggetti di cui stiamo parlando sono veramente oggetto di pensiero per ogni uomo che si dica effettivamente uomo. Noi diciamo che ogni uomo dovrebbe essere pensieroso, dovrebbe pensare effettivamente a quali sono le cose buone da fare. E io sono sicuro che ogni uomo pensieroso, ogni uomo che effettivamente usa la sua intelligenza per capire ciò che si deve e non si deve fare, allora io penso che senz'altro si arriverà alla conclusione, quest'uomo, si sta parlando, di appunto non cibarsi di carne animale. Ora, allora noi io volevo presentarvi una canzone in questo momento, così possiamo spezzare il lungo filo del discorso, e questa canzone è tratta da un LP che abbiamo presentato molte altre volte, che sicuramente avete sentito molte volte, si intitola Natural Secret ed è stato fatto, suonato, cantato da un devoto che si chiama Mangalananda Das e al secolo si chiama Michael Cassidy. Questa canzone appunto si intitola O Thoughtful Man, o uomo pensieroso, o uomo che pensa effettivamente ai valori più alti della vita. Naturalmente sarebbe interessante sentirlo tutto e tradurlo soprattutto tutto. Ve lo faremo sentire tutto, però non possiamo tradurvelo tutto perché le parole sono interessanti ma richiederebbe troppo tempo. Comunque io vi lascio in compagnia con Michael Case di Mangalananda Das con O Thoughtful Man. This song right now during the age of quarrel, Mother Earth is in distress, burdened by the threatening wars, cheaters who are guised in royal dress. Deluded by the lust for riches, the rulers turn from friends to foe, and holding high their lethal weapons, the good earth has no place to go. We've got to realize it all belongs to Him. The Lord who gave us life is everybody's friend. We've got to recognize His universal plan, and then we'll come to see the brotherhood of man. thinking, we see the days are getting late. Allow the love of God at last to flood the fires of lust and hate. We've got to Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Florence, Italy. La Toscana, specialmente Firenze, è una città conosciuta per l'arte, tante belle cose, ma adesso c'è anche una cosa bellissima, lì sarebbe il centro, una fattoria dei devoti di Krishna. Questa fattoria si chiama Villa Vrindavana, un vero oasi, un oasi di pace e tranquillità, dove uno può adorare, vivere in contatto con Dio ogni giorno. Un posto adatto per aiutarci a sviluppare il nostro amore per Dio, aiutarci a sviluppare le nostre relazioni anche con gli altri, basato naturalmente su questo interesse in comune a servire Dio Krishna, la persona suprema. Ma di volte noi abbiamo intenzione di aprire tantissimi fattori e centri in tutta Italia, in tutto il mondo, per offrire a chiunque che seriamente vuole praticare la vita spirituale l'opportunità di farlo. Basta con le parole, adesso è un momento per agire. E come voi scoprirete, anche i bambini sono molto attratti alla coscienza di Krishna. La coscienza di Krishna non è una percezione falsa sulla mente, sulla vita. Coscienza di Krishna, la coscienza di Krishna è spontanea, se uno lascia che uno senti le vibrazioni del canto Mahamantra, se uno canta Mahamantra, se uno legge i nostri libri, potete cominciare a vedere questa conoscenza come qualcosa che avete saputo, ma in qualche modo o un altro avete scordato. Questo è dovuto a questa energia materiale che ci copre, che ci spinge, la nostra mente, il nostro corpo, ci spinge ogni giorno di soddisfare questo corpo, la nostra mente, quando veramente noi siamo armi spirituali. Quindi è come per esempio dare benzina alla tua macchina, no? Se tu hai fame, dando benzina alla macchina non ti soddisferà mai, può anche morire di fame. Invece dobbiamo dare cibo a noi stessi. Noi siamo anime spirituali, l'anima ha bisogno di cibo, di informazione, di attività. I bambini che frequentano la nostra scuola, che si chiama Gurukula, sono anime rare e speciali. Ma anche voi siete. Chi ascolta RKC è già sulla buona strada per ritornare a Dio Krishna, la persona suprema. Adesso, senza un'altra parola, ascoltiamo una produzione del nostro studio a Villa Vrindavan a Firenze. Come al solito, buon ascolto con RKC e spero che veramente è un buon ascolto. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. RKC presenta programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana. Buongiorno allora a tutti i nostri ascoltatori più piccoli, e se ce n'è qualcuno vicino agli apparecchi radio siete pregati di chiamarlo e invitarlo, perché questa è una trasmissione fatta su misura per bambini e anche per genitori e anche per bambini cresciuti, comunque prima di tutto per bambini. Sono bambini questi che stanno cantando, questo Maha Mantra è un disco che hanno fatto bambini per i bambini, sono anche bambini i protagonisti di questo programma, sono anche oggi ospiti qui nel nostro studio a RKC i bambini della Gurukula di Villa Vrindavana. Bambini, allora volete salutare gli ascoltatori? Volete Hare Krishna! Haribol, tutti insieme, eh? Hare Krishna! Haribol, eccoli qua, una decina di bambini. Sono qui anche, sentiamo, Lalita Govinda, qual è il programma di questa trasmissione? Cosa hanno preparato i bambini per gli ascoltatori? Pensavamo di farvi ascoltare un'altra canzone e poi raccontare una favola, con l'aiuto la racconto io con l'aiuto dei bambini. Benissimo, allora i bambini hanno preparato un'altra canzone. Che canzone è oggi? Oggi è Namaste Narasimhaya. Benissimo, sentiamo cosa hanno preparato i bambini della Gurukula di Villa Vrindavana. Namaste Narasimhaya. Toya mita toni singo, toya toya mita toni singo, bayer ni singo, ridaye ni singo, bayer ni singo, ridaye ni singo, singa madim saranam prapade. Nakara kamala vare naka madhuta sringam Haridai ranya kashipur dhanu pringam Keshavadrita narahari rupa Hey Jagadish Hare, Jaya Jagadish Hare, Sava Sava Sama Vare Nama. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Siete sempre all'ascolto di Fuori dal tempo. Eh sì, Srila Prabhupada lo diceva sempre. I nostri figli, anzi ancora meglio, i figli dei nostri figli, molti di loro saranno dei puri devoti. E vi assicuro che conoscendo bene i bambini che crescono, o ancora meglio, che nascono in coscienza di Krishna, e per questo indico bisognerebbe stare, non so, qualche giorno insieme a loro, si può tranquillamente capire che queste previsioni di Srila Prabhupada sono assolutamente reali. Infatti per i bambini è molto naturale concepire la coscienza di Krishna, concetti molto profondi e importanti per realizzarsi spiritualmente, tipo che non siamo questo corpo, che tutte le entità viventi sono anime spirituali eterne, tali quali come noi, che c'è un supremo organizzatore, un supremo controllore, che è Krishna Dio, la persona suprema. Per i bambini concepire queste cose è assolutamente normale. Anzi, è veramente la logica risposta a tutte le loro domande, a tutti i loro perché. Quindi vi invitiamo a venirci a trovare qui a Villa Vrindavan anche per conoscere i nostri bambini, per conoscere la nostra scuola, la Gurukula. E se volete potete anche mandare i vostri bambini in Gurukula. Perché no? Veramente questa è un'educazione pulita, non c'è nel mondo materiale, cosiddetto all'infuori dei tempi dei devoti di Krishna, una scuola, un'istituzione dove non ci siano cattive informazioni. Informazioni assolutamente vere, tratte da un'antica conoscenza, che risolvono i problemi principali della vita. E quali sono i problemi principali della vita? In questa puntata ancora non l'abbiamo detto. Nascita, malattia, vecchiaia e morte. È detto che nessuno dovrebbe prendere un posto di guida in tutti i sensi, sia come genitore, come maestro, come responsabile dello Stato. Nessuna di queste posizioni dovrebbe essere presa da una persona che non sappia svincolare i suoi dipendenti, diciamo, dal ciclo di nascite e morti. Benissimo, e dal discorso bambini ai devoti di Krishna possono tranquillamente balzare di argomento in argomento. Perché? Perché tutti gli argomenti per noi hanno un filo conduttore molto preciso, molto resistente. Hanno un centro, più precisamente, che tiene insieme tutti quanti gli argomenti. E questo centro è Krishna Dio, la persona suprema. Krishna che è in ogni luogo, in ogni posto, in ogni concetto che l'uomo mette fuori, che tira fuori dalla sua intelligenza, ogni azione, ogni grande impresa, c'è sempre Krishna Dio, la persona suprema. Quindi passiamo a sentire questa avventura che abbiamo già sentito in altre puntate di Fuori dal Tempo, questa avventura commentata e raccontata da Krishna Prema Das, di questi esploratori. Fuori dal Tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. I nostri alpinisti sono arrivati praticamente alla Georgia, questa zona che è descritta essere quasi una copia delle Alpi, però in questa zona molto vasta, piena di ghiacciai, si trova appunto nella 15 miglia circa dal polo sud. In questo momento della storia gli alpinisti, 5 alpinisti, sono distanti dal mezzo di comunicazione, il mezzo di trasporto, che è la barca, il basile, e hanno anche perso le comunicazioni radio, proprio perché il tempo è piuttosto brutto. Andiamo avanti, vediamo cosa succede. Per noi questa decima giornata non promette niente di buono. Ci troviamo a 700 metri di altitudine e cade una neve fitta e bagnata. Per via del forte vento che ci ricopre di ghiaccio, che con il calore del corpo in movimento fonde e penetra nei vestiti, pronto a gelare di nuovo non appena ci fermiamo. Brrr. La visibilità è nulla e le nostre bussole sono pressoché inutilizzabili. Due possibilità di salvezza. La prima è quella che ci richiederebbe 2 giorni per raggiungere la base baleniera abbandonata di Principe Olaf. Lì dovremo in teoria incontrare Basile, la nostra nave. In questo modo ci troveremmo però completamente privi di viveri e nel caso che la nostra barca manchi all'appuntamento sarebbe la fine. La seconda soluzione consiste nel scendere esattamente come aveva fatto Shackleton 63 anni prima verso Possession Bay, tentando per l'ultima volta di fare funzionare la radio all'improvviso. Consumata ogni speranza, qualcuno potrebbe rispondere. E direi che ci esiste anche una terza, una terza via di uscita che potevamo suggerire. Peccato che questi signori non avevano una radio in media frequenza, in modulazione di frequenza, perché avrebbero potuto sentire i consigli di RKC, Radio Krishna Centrale, che naturalmente arriva anche al Polo Sud, e così avrebbero capito qual era l'unica cosa da fare giusta in quel momento, e quella era quella di cantare i santi nomi di Krishna. Va bene, andiamo avanti. Sembra veramente una situazione piuttosto difficile. Del resto le situazioni difficili sono all'ordine del giorno e fanno parte del bagaglio, del repertorio dell'energia materiale. Questa pantomima che viene messa in scena ogni momento, ogni giorno, in tutto il mondo materiale, è proprio piena di queste caratteristiche che sono una sfida costante alla nostra caparbietà. E più un uomo viene frustrato dall'insuccesso, l'insoddisfazione, e più sembra voler nascere in lui il desiderio di continuare a combattere questa guerra, che però combatte con le armi sbagliate. Conseguentemente non vince mai, ma è sempre il perdente. La guerra è buona, nel senso che la guerra può definire finalmente e definitivamente una situazione, come nel caso per esempio della grande battaglia di Kurukshetra, in cui c'erano formate due fazioni precise di uomini, uni che volevano essere al posto di Dio, Krishna, gli altri invece che volevano portare avanti la gloria di Dio, la grandezza di Dio, e naturalmente con l'appoggio di Dio, con l'aiuto anche di Dio, perché Krishna alla battaglia di Kurukshetra in realtà ha fatto alcuni miracoli, chiamiamoli così, a favore dei Pandava, distruggendo così in maniera abbastanza interessante e incredibile l'esercito dei Kuru, che erano capitanati ciononostante da grandi guerrieri, da grandi re. Tra l'altro erano anche parenti, c'era anche una relazione di parentela. Ciononostante, proprio perché la necessità era tale di dover definitivamente cancellare dalla faccia della terra delle persone che avevano veramente una propensità avversa a quelle che sono le indicazioni che venivano da Krishna, Krishna dette il suo appoggio e il suo aiuto a questi altri uomini, ai Pandava, e con il suo aiuto riuscirono chiaramente a vincere questa battaglia e stabilire il Varnashrama Dharma, cioè le leggi eterne della vita umana. E così tutti noi, è inutile che vogliamo cercare di combattere una battaglia se non abbiamo l'appoggio di colui che è alla base di tutta quella che è la regia e l'organizzazione di questo grande spettacolo viaggiante, mobile, immobile, che è appunto la vita di tutti i giorni, la vita materiale, la vita all'interno del cosmo materiale. Se noi vogliamo vincere la battaglia, vogliamo combattere la battaglia giusta, dobbiamo batterla contro l'ignoranza, dobbiamo combatterla contro la voglia di rimanere distanti dalla conoscenza, la voglia di dobbiamo combattere contro la mente, contro i desideri inutili, contro le attività inutili. E dobbiamo vincere questa battaglia, e possiamo vincerla alleandoci con Krishna. Quindi l'esempio della battaglia di Kurukshetra è un esempio perfetto, che può essere proprio riproposto in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo di scontro, e può essere di grande ispirazione per tutti coloro che si accingono ad combattere o vogliono distruggere l'elemento negativo nel mondo, per poter portare avanti quella che è la soluzione di tutti i problemi dell'uomo, ed è diventare coscienti della nostra posizione, diventare coscienti di chi è il padrone reale e qual è la relazione che dovrebbe intercorrere tra noi e il padrone reale, cioè Dio, Krishna, la persona suprema. Thank you. torniamo alla nostra storia. Una storia che ci così offre lo spunto per poter parlarvi appunto di quelli che sono gli obiettivi reali nella vita umana. Andiamo avanti. Tentiamo per l'ultima volta di far funzionare la radio e all'improvviso, quando proprio non ci sono più speranze, qualcuno risponde: qui Basile, siamo a Principe Olaf, partiamo immediatamente per recuperarvi ai piedi del ghiacciaio di Possession, ma bisognerà fare molto in fretta, sono già 8 ore che il barometro sta scendendo in picchiata, quella che sta arrivando è una depressione molto seria. Nella nebbia scendiamo sul ghiacciaio con gli sci, cercando di frenare i 100 kg della slitta e bordeggiando tra i numerosi crepacci che spuntano all'improvviso sul cammino. Giunti finalmente in riva al mare, mentre ancora ci stiamo levando gli sci, ecco profilarsi, dietro gli scogli che chiudono l'ingresso della baia, i due alberi del Basile. La manovra d'imbarco è rapidissima, l'ancora è gettata a pochi metri dal ghiacciaio. Viene subito messo in mare il canotto e in meno di 3/4 d'ora il gruppo dei 5 alpinisti torna finalmente a bordo del Basile, che riparte a una velocità di 8 nodi con 2 mani di terza ruoli alla rampa. Principe Olaf, la neve cade fitta, il pennino del barografo è bloccato sul fondo del foglio, è la quiete prima della tempesta. Ci prepariamo ad affrontare il maltempo attraccati al pontile erboso e putrescente dell'antica base baleniera che ha tutto l'aspetto di un villaggio fantasma del Far West. Triplichiamo gli ormeggi e mentre qualcuno cerca di far asciugare i nostri vestiti bagnati in quella che era la cantina della base baleniera, altri approfittano del comfort del nostro rifugio ambulante dedicandosi alla lettura o impegnandosi in una battaglia navale nell'accogliente quadro della barca. La lettura è una cosa importante, cioè dedicare del tempo a leggere è molto molto importante, soprattutto quando abbiamo la possibilità di leggere dei libri speciali. I grandi classici dell'India. I libri che vi aiuteranno a capire il presente e ad organizzare un grande futuro. Non perdete questa meravigliosa opportunità. Regalate e regalatevi i grandi classici dell'India. Nel piccolo spazio di una barca a vela, il quadrato è il locale comune, quello dove si consumano i pasti o si passa il tempo libero. Forse non è stata una decisione cosciente, ma quando è stata ultimata la costruzione del Basile, ci siamo accorti che avevamo arredato il quadrato come l'interno di un piccolo chalet di montagna. Ed è in fondo, è proprio questa la funzione della nostra barca qua giù, un rifugio alpino semovente che si sposta tra i monti della Georgia sull'oceano che ne ha allagato le ampie vallate. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Il monte Paget raggiunge i 3000 metri sul livello del mare ed è una montagna impressionante con ghiacciai che sfociano direttamente nell'oceano. Nella letteratura vedica ci sono molte montagne famose. La più famosa di tutti è il Monte Meru, che è il re delle montagne. bellissima storia che abbiamo raccontato, credo, qualche tempo fa, di un grande saggio che aveva bisogno per fare un grande sacrificio di una montagna. E allora il grande saggio andò dal Monte Meru, è il re delle montagne, e gli chiese se aveva qualche montagna disponibile. Il re pensò un attimo e disse: beh, in effetti ci sarebbe mio figlio che in questo momento non è nemmeno occupato, potrei senz'altro chiedergli se può venire con te. Suo figlio era Govardhana. Naturalmente Govardhana non era d'accordo su muoversi e andare con il saggio per fare questo sacrificio. Però il padre insiste tanto, allora Govardhana disse: va bene, io vengo, però a una condizione. La prima volta che ti fermi, che ci fermiamo, io non mi muoverò più da quel luogo. Quindi attenzione. Allora il saggio acconsentì e cominciò il suo viaggio con Govardhana, questa montagna che lo seguiva da lontano. In quei tempi le montagne volavano. Per una serie di circostanze che adesso non sto a dirvi perché sennò diventerebbe lunga la storia, il saggio si dovette fermare arrivato nella zona di Brajamandala, cioè Vrindavana. E naturalmente, come si fermò per riposarsi, anzi si addormentò un attimo, si dimenticò della montagna alla quale si era fermata, proprio nel posto dove si è fermato tante migliaia di anni fa, esiste ancora la collina di Govardhana, che oggi è una collina non molto alta, perché nel frattempo, più avanti, fu maledetta da un grande Brahmana a diminuire di un certo numero di millimetri ogni anno. Qui che è detto nelle scritture vediche, nel libro di Krishna, che tra tutti i devoti, Govardhana Hill, la collina di Govardhana, è il devoto, più bravo, più attaccato, più fedele a Krishna. Proprio perché sulla collina di Govardhana, Sri Krishna stesso, 5.000 anni fa, giocò con i pastorelli e quindi diede modo di far vedere i divertimenti più intimi. Fu anche toccata da delle dita trascendentali del Signore in occasione della pioggia torrenziale che il re del pianeti celesti Indra scagliò contro gli abitanti del villaggio di Govardhana, proprio perché loro dibrindavano, perché non volevano fare un sacrificio per appunto Indra. Quindi le montagne, ricollegandoci a questa avventura di questi alpinisti, le montagne sono delle entità viventi, chiaramente, come lo sono altre entità viventi, che possono dare invece così atto a pensare che non c'è niente di vivente, ad esempio, all'interno di un vulcano, ma in realtà un vulcano è un essere vivente. Una jiva è un essere spirituale eterno, anche lui con un corpo particolare, è quello di vulcano. Ci sono delle storie nello Srimad Bhagavatam che spiegano di grandi saggi che hanno scalato delle montagne per arrivare più alto possibile in modo da poter adorare il Signore Supremo Sri Krishna. Poi dall'altra montagna, dall'alto di queste montagne, si sono spostati direttamente nei mondi superiori. Arjuna stesso, prima di arrivare ad essere preso da suo padre Indra, scalò insieme agli altri suoi fratelli Kandava e la madre Kunti e la moglie Drupadi questa grande montagna doveva essere poi il trampolino da dove da lì si sarebbe spostato nei mondi superiori, nei pianeti superiori, da quale è sceso un carro mandato da suo padre Indra per prelevarlo e portarlo appunto nel pianeti superiori. Nelle montagne Srila Prabhupada stesso, una volta sorvolando le Alpi in aereo, fece un commento guardando il Monte Bianco e lui disse che il Monte Bianco era direttamente collegato con il mondo spirituale. Era una grande personalità. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Ma voi direte, le montagne sono vive, ma come credere? Eppure questo sarebbe una spiegazione al perché queste certe persone sono così attratte dallo scalare le montagne e arrivare sulla vetta. Perché altrimenti, va bene, sì, il senso di conquista, però perché proprio in cima a una montagna? Questo andare verso l'alto. Questa sensazione che se si va in alto sembra che manca meno a che cosa. Queste persone non sono mica delle persone così ingenue, diciamo, dal credere che il cielo sia così un vetro e che magari più in alto si va più si tocca questo fine del mondo materiale, il cielo attraverso un vetro. No, loro lo sanno che scientificamente parlando questo non è così. Quindi il motivo è da ricercare senz'altro ad altri livelli. Com'è vero che tutte le nostre emozioni, tutte le nostre sensazioni in questo mondo materiale sono dei riflessi distorti delle vere sensazioni autentiche, dei veri sentimenti che noi abbiamo come anime individuali eterne, eterni frammenti di Dio, Krishna, la persona suprema? Com'è vero che la nostra attrazione verso l'uomo, verso la donna, non è altro appunto che un riflesso distorto della ricerca, questa ricerca è un riflesso distorto dell'amore che abbiamo perduto per Krishna, Dio, la persona suprema, e lo stiamo cercando nelle altre persone, ma inevitabilmente sempre, chi ha avuto esperienza lo sa, chi non l'ha ancora avuta lo saprà, non è nelle relazioni in questo mondo materiale tra una persona e l'altra che si trova la soddisfazione. Com'è vero questo? Com'è vero che l'uomo cerca continuamente il modo per vivere a lungo, magari eternamente? Perché non è a caso, gli animali che non hanno una coscienza evoluta come quella dell'uomo non ci pensano nemmeno. Perché? Perché l'uomo è più scoperto, è più la sua coscienza divina è più in superficie. Quindi lui sente che non è la sua vera natura quella di essere così finiti, che si finisce come finisce il corpo materiale. Quindi ecco giustificata questa ricerca di eternità, questa voglia di vivere sempre, di essere eternamente giovani. Eh sì, anche questo scalare le montagne. Le montagne, sono certe montagne che ti portano più vicino a Krishna, sembra, Govardhan, la collina Govardhan. E Srila Prabhupada ci ha svelato anche il Monte Bianco. Srila Prabhupada. E a proposito di Srila Prabhupada, andiamo a sentire qualcosa di Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ci ha dato, diciamo così, la via, ci ha indicato la via per espandere il movimento per la coscienza di Krishna, scrivere, stampare e distribuire libri. In effetti di coscienza di Krishna ne è stato scritto già tantissimo, quindi non ci sarebbe bisogno di scrivere altro, però i discepoli Srila Prabhupada, naturalmente investiti di potere da lui stesso, alcuni di essi hanno iniziato a scrivere dei testi, e in particolare qui ho sotto mano un testo che è stato scritto da un devoto che si intitola, cioè che si chiama Richard Thompson, che in effetti però risponde al nome di Sadaputa Das, ed è un libro che è stato pubblicato dalle edizioni Bhaktivedanta, ma in particolare dal Bhaktivedanta Institute, vale a dire l'Istituto Bhaktivedanta di Studi Scientifici. Che cos'è l'Istituto Bhaktivedanta? È un istituto organizzato dai devoti, dove partecipano prevalentemente devoti scienziati, vale a dire devoti che hanno, sono esperti nel campo della scienza, e i quali utilizzano appunto la loro esperienza, i loro studi scientifici per dimostrare alla gente l'esistenza di Dio e l'eternità dell'anima, eccetera eccetera. Si potrebbe chiamare una scienza alternativa. In effetti la scienza è sempre quella, perché loro si basano sugli studi degli altri scienziati, naturalmente. Però la cosa interessante è che quello che loro presentano e che propugnano è la realtà che Krishna, Dio, la Persona Suprema, esiste, noi siamo anime spirituali eterne, e quindi che quelli che sono i risultati portati avanti dalla scienza attuale sono imperfetti, imprecisi, soprattutto sono molto limitati. La cosa stupefacente comunque è che loro a queste conclusioni ci arrivano utilizzando gli stessi mezzi scientifici che usano gli altri scienziati. Non è che semplicemente loro aggiungono la fantasia, assolutamente no. Anzi, se voi seguirete con me questa lettura di questo librettino, troverete che è molto scientifico. Nulla è lasciato al caso. Adesso io probabilmente vi leggerò solamente l'introduzione di questo libro, perché in effetti naturalmente è un libro un pochino complicato. Infatti è un libro, potremmo quasi dire, proprio per gli addetti ai lavori. Infatti qui si parla di, non so, per esempio, apro a pagina 36 così a caso, vediamo che c'è scritto prob tra parentesi c, chiusa parentesi, minore di n64 alla meno 80 millesima, affinché prob c sia ragionevolmente grande. Noi dovremmo avere n maggiore di 64 alla 80 millesima. In paragone noi possiamo notare che 10 alla 75esima è molto un limite superiore molto generoso sul totale dei numeri degli organismi che potrebbero essere vissuti sulla Terra in un periodo di 4 miliardi e mezzo di anni. Quindi, come vedete, insomma, è un linguaggio abbastanza per addetti ai lavori, però l'introduzione è abbastanza semplice, io ve la voglio leggere, che è molto interessante. Quindi, andiamo avanti con questa introduzione. Il libro si intitola Dimostrazione attraverso la teoria dell'informazione che la vita non può sorgere dalla materia. In questo libro noi mostreremo come le analisi matematiche del contenuto informativo dimostra che le leggi della natura, così comprese dalla scienza moderna, non sono sufficienti per rappresentare la vita che noi vediamo attorno a noi. L'argomento di base è questo. Le leggi della natura e i modelli matematici corrispondenti di realtà fisica possono tutti essere descritti con poche semplici equazioni e altre espressioni numeriche. Questo significa che loro posseggono un contenuto di informazioni un limitato, un basso contenuto di informazioni. D'altro canto, le intricate e varie forme di organismi viventi possiedono un alto contenuto di informazioni. Verrà mostrato che le configurazioni di alto contenuto informativo non possono sorgere con probabilità sostanziali in modelli definiti da espressioni matematiche con un basso contenuto di informazioni. Quindi ne segue che le forme di vita non potrebbero sorgere dall'azione dei generi naturali di leggi o dal genere di leggi naturali o dagli agenti causali fondamentali che sono considerati nella scienza moderna. Questo argomento ha un particolare aspetto di superare la proposizione fatta dai teorici evoluzionisti, che sebbene i passi che conducono alla vita siano improbabili, essi ciononostante sono apparentemente accaduti, dando immensi spazi di tempo geologico disponibili. Cioè, ve lo dico un pochino meglio. Questo argomento ha un particolare aspetto di superare, diciamo così, la proposizione fatta dai teorici evoluzionisti, i quali dicono che sebbene i passi che conducono alla vita siano improbabili, ciononostante loro molto presumibilmente sono accaduti, poiché gli si dà molto spazio di tempo disponibile. Noi mostreremo come nessun periodo di tempo da 0 a miliardi e miliardi di anni sarà sufficiente per fare l'evoluzione della vita dalla materia per caso e per una selezione naturale come un affare probabile. Vale a dire che in questo libretto si dimostrerà come non c'è possibilità di tempo, cioè in un periodo sia di anni che di miliardi di anni, non saranno mai sufficienti per rendere probabile per rendere probabile l'evoluzione della vita dalla materia per caso e per selezione naturale. Piuttosto noi mostreremo che la probabilità dell'evoluzione delle forme viventi in periodi molte volte più di quello stimato di 4 miliardi e mezzo di anni dell'età della nostra Terra è legato, questa probabilità, a limiti numerici dell'ordine di 64 alla meno 80 millesima. No, scusate, alla meno 80.000. 64, il numero 64 è elevato alla meno 80.000, cioè praticamente un numero infinitesimale. Questo implica che l'intera storia della Terra dovrebbe essere ripetuta ancora nell'ordine di 64 alla 80 millesima volte perché ci sia una sostanziale possibilità che entità viventi complesse possano evolversi anche una volta sola. Una ragione intuitiva per l'impossibilità dell'evoluzione organica giace sulla base di questi numeri. Si può mostrare che il processo della selezione naturale, cioè il meccanismo dell'evoluzione, deve avere una specifica direzione per portare avanti l'evoluzione di organismi viventi complessi. Senza questa direzione, questo metodo, questo processo è incapace di discriminare tra gli eventi casuali, cioè mutazioni, in modo tale da portare un ordine complesso, cioè di portare fuori un ordine, uno stato di ordine complesso dal caos. Vale a dire, è impossibile che senza questa direzione data al processo naturale di selezione, di selezione naturale, è impossibile che sia venuto fuori praticamente l'ordine dal caos. Per questa ragione gli argomenti ordinari che portano avanti il fatto che l'evoluzione avviene effettivamente dandogli un tempo per accadere abbastanza lungo, sono falsi questi argomenti. La selezione naturale non ha la direzione, poiché la causa base di questa selezione, cioè le leggi della natura, hanno un livello di informazione troppo basso per specificare simile direzione. Più generalmente si mostra che in un sistema matematico ogni informazione che può essere estratta da un sistema dopo trasformazioni corrispondenti al passaggio del tempo deve essere stato costruito nel sistema sin dall'inizio. I procedimenti casuali non possono dare alcun contributo. Ne segue che i sistemi matematici sono in principio incapaci di spiegare l'origine di entità altamente varie e complesse, come per esempio le forme degli organismi viventi. Tutt'al più, al meglio, questi sistemi possono semplicemente, a malapena, rappresentare il complesso ordine qui e ora, facendo dei postulati dicendo che un equivalente ordine complesso era presente in un qualche tempo precedente o fu trasportato in questo sistema dall'esterno. Questo non vuol dire che l'origine di questo ordine, non vuole assolutamente definire l'origine di questo ordine, ma semplicemente confrontarci sia con un infinito regresso o con una eterna sorgente di ordine che contiene le informazioni necessarie per specificare tutte le forme di vita. Beh, io spero che capiate, o almeno che capiate quel tanto che basta per sentirvi estremamente interessati a volerne sapere di più. Andiamo avanti. Che il programma originale scientifico di descrivere il mondo con dei sistemi matematici è troppo limitato e può quindi solamente servire per impedire la nostra comprensione della natura. Questo programma è basato sulla convinzione che le semplici regolarità osservate dai fisici e dai chimici negli esperimenti con materia inanimata saranno sufficienti a rappresentare ogni fenomeno del mondo. Ma dato che noi mostreremo qui che questo programma non può avvenire a causa, cioè per quanto riguarda per la rappresentazione dell'origine della vita, noi suggeriamo che la visione alternativa, cioè che la vita piuttosto che la materia sia la causa fondamentale di tutti i fenomeni osservati, deve essere seriamente considerata. Il programma della scienza durante gli ultimi 200 o 300 anni è stato di ridurre la vita alla materia e negare l'esistenza di un principio vivente più elevato, trascendentale alla materia. In questo programma l'idea che la materia sia semplice e concepibile è stato essenziale. Ma se, come mostrato qui, è necessario attribuire alla materia tutti gli aspetti caratteristici della vita per spiegare l'origine della vita dalla materia, allora si può concludere che questo programma ha fallito. Quindi fa più senso invertire il programma degli scienziati e ammettere che, dato che la causa della vita deve possedere le proprietà della vita, la vita stessa deve essere il principio causale fondamentale e la materia deve essere un fenomeno derivato originato nella vita. Questo approccio alla natura è consistente, è sottolineato dall'antica comprensione accettata dai pensatori sia dell'Oriente che dell'Occidente, che l'ultimo principio causale è il supremo essere vivente e che tutti i fenomeni sono derivati da lui. Verrà anche svelato una ricchezza di nuove visioni, di nuove vie di esplorazione scientifica. Questa è l'introduzione a questo libro che, ripeto, si intitola Dimostrazione attraverso la teoria dell'informazione che la vita non può sorgere dalla materia. Naturalmente questo libro è in inglese per ora, ma è disponibile a tutti coloro che sanno l'inglese e volessero saperne di più. Per esempio io ho un cognato che si potrebbe dire quasi che è uno scienziato, o meglio è una famiglia. Mio cognato, cioè il marito di mia moglie e sua moglie, tra l'altro penso che siano anche in ascolto, io li saluto, lui si chiama Giovanni, lei si chiama... Comunque, salutiamo tutte e due. Lei è una ricercatrice medica, cioè laureata che fa ricerche in medicina, e lui invece è un ingegnere in campo di informatica, elettronica, insomma, queste cose, che è proprio un campo leggermente scientifico, una famiglia di scienziati. Ecco, lei si chiama Cristiana, quindi saluti a Cristiana e Giovanni. Bene, allora noi abbiamo dato, io e mia moglie abbiamo dato a loro uno di questi libri qua, perché in effetti abbiamo capito che, siccome loro hanno una mente molto scientifica, un libro così sicuramente li avrebbe molto interessati. Quindi se per caso voi avete una mente scientifica e vi interessa leggere qualcosa di scientifico sulla coscienza di Krishna, o meglio la coscienza di Krishna spiegata in maniera scientifica, allora vi invitiamo a venire qua e a prendere questo libro, che è estremamente interessante. Io adesso, sfogliandolo così, io non ho una mente scientifica, no? Ci deve rimanere veramente impressionati, perché qui ci sono delle sequele di formule, numeri, cose stranissime, proprio tipicamente da scienziati. Quindi forse è proprio il caso che questo libro qui sia letto solamente da quelli che se ne intendono veramente un po'. Però sono sicuro che ci sono tantissimi ricercatori qua in Italia, anche nella zona di Firenze, nella zona di Milano, insomma dappertutto, dovunque si sente RKC, sicuramente c'è qualcuno che fa il ricercatore all'università, che se ne intende di queste formule eccetera, e magari parla anche l'inglese, quindi a lui uno di questi bei libri, dimostrazione che la vita non può venire dalla materia attraverso la teoria dell'informazione, libro molto interessante, scritto da Richard Thompson, che è un laureato. Io spiegate, se vi dico chi è questo Richard Thompson, giusto per farvi capire un pochino chi si unisce alla coscienza di Krishna, perché molta gente pensa, ma alla coscienza di Krishna si uniscono solo i giovani, così quelli per il tempo che non c'hanno niente da fare. Richard Thompson è nato a Binghamton, New York, nel 1947, ha ricevuto il suo BS in matematica e fisica dall'Università dello Stato, cioè si è laureato dall'Università dello Stato di New York a Binghamton, e il suo MA, che non so cosa vuol dire, sa un grado, in matematica all'Università di Siracusa, quindi sembra che abbia tre lauree. Nel 1974 ha ricevuto il suo physics degree, vale a dire la sua laurea, il suo dottorato in teoria della probabilità alla Cornell University. Egli ha lavorato per la General Anyline e Film Corporation e per la Computer Science Corporation come matematico e programmatore di computer. Nel 75 è diventato un discepolo iniziato di Sua Divina Grazia AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada, e si chiama appunto Sadaputa Das, e attualmente è un membro del Bhaktivedanta Institute. Dottor Thompson ha pubblicato una monografia sulla teoria delle meccaniche statistiche che si intitola Equilibrio, stati di equilibrio nelle conchiglie di energia sottile. Qui spiegato anche dov'è questo, nel 74 il suo libro numero 150 nella Memoir of American Mathematical Society. Egli è un membro della Società Matematica Americana. Quindi, come vedete, questo personaggio, io l'ho conosciuto, è un devoto di Krishna, ed è uno scienziato, no? Cioè, insomma, super laureato, insomma. Quindi, come vedete, anche gli scienziati possono mettere se stessi al servizio di Krishna, perché in effetti, come dissi una volta, come del resto ripeteremo molto spesso, è molto facile dimostrare l'esistenza di Dio. In effetti questo mondo è fatto per dimostrare l'esistenza di Dio. Quindi, prendendo spunto da tantissime cose, noi possiamo sempre dimostrare l'esistenza di Dio. Mentre invece è impossibile dimostrare la non esistenza di Dio. Naturalmente con la parola esistenza di Dio qui si parla anche di della vita che viene dalla vita, insomma, cioè della vita che non è originata dalla materia, del fatto che la teoria evoluzionistica di Darwin non è così come è descritta da Darwin, ma invece è così come è descritta nella Bhagavad Gita, cioè che ogni anima spirituale eterna passa da un corpo all'altro via via avanzando sempre verso delle forme di vita più elevate fino a che raggiunge la forma umana, dalla quale poi ha la possibilità di tornare nel mondo spirituale. Questa è la vera evoluzione. Quindi, come vedete, anche la scienza può essere messa al servizio della coscienza di Krishna. Questo mondo, dicevo, è fatto per dimostrare che Krishna esiste e non che Krishna non esiste. E quindi, se uno ha una mente, diciamo così, non è necessario essere estremamente intelligenti per capire che Dio esiste. La cosa più importante per capire che Dio esiste è che bisogna essere umili. Cosa vuol dire essere umili? Vuol dire avere la conoscenza, cioè capire, sapere, conoscere quanto noi siamo piccoli, e quindi quanto Dio può essere grande. Ora voi direte, va bene, ma come faccio a capire che io sono piccolo? Ma è molto semplice. Non è che uno deve per forza vedere Dio per capire quanto siamo piccolini, no? Basta che ci guardiamo in giro, no? Adesso, per esempio, potete, non so, andare alla finestra e guardare fuori. Ecco, guardate il cielo. Sia che sia buio che ci sia sole, il cielo è enorme. Noi di fronte al cielo siamo infinitesimali, siamo piccolissimi. Guardate il pianeta Terra. Il pianeta Terra è enorme, no? Noi siamo, nonostante, piccolissimi. E il pianeta Terra, confronto all'universo, è piccolissimo. Quindi, chissà quanto siamo piccolini noi. Allora, se siamo così piccolini, come facciamo ad essere orgogliosi, no? Come possiamo noi pensare di essere il signore della creazione? Come se una formica, se noi potessimo, non so, leggere nella mente delle formiche, ascoltare i discorsi delle formiche, magari la formica regina nel formicaio pensa di essere la regina del mondo, pensa di essere la dominatrice di tutto ciò che esiste. Ma noi che la guardiamo, ci viene da ridere, diciamo, guarda un po' questa qua, che illusione, ma guarda un po', noi diremo, ma guarda che falso io, no? Che sbagliata identificazione con sé, così tanto orgogliosa da pensare di essere la dominatrice, mentre invece non è altro che una formica. Questo mi fa venire in mente una storiellina cosciente di Krishna, molto simpatica. Una volta c'era un re che era seduto sul trono, e questo re stava ricevendo le ovazioni e le glorificazioni da parte dei suoi sudditi, no? Così tutti i sudditi erano lì in estasi che urlavano: Kijai, Kijai, Kijai, Maharaj, Kijai, Maharaj, Kijai. e guarda caso sul ginocchio di questo re c'era una zanzara. Questa zanzara era lì seduta sul ginocchio e il suo, diciamo così, la sua identificazione con se stesso, col suo corpo, era tale per cui lei pensava che tutte quelle ovazioni, quelle glorificazioni fossero rivolte a lei, no? Così si sentiva molto tronfio, molto orgogliosa, molto, potete immaginare, bella contenta, no? Perché percepiva che tutto quello, la gloria era per lei, no? E lei era la regina, cioè un re, insomma, forse era una zanzara maschio, era il re della situazione, no? Era lei, era lui, era quello che era, insomma, che era sul trono, la zanzara era sul trono, non era il re, no? Quindi tutto era rivolto al re. A un certo punto però, nel pieno di questa agitazione, di questa, diciamo così, gioia di sentirsi glorificata, la zanzara fece un movimento e in qualche modo diede fastidio al re, no? Il quale re, sentendo questo piccolo fastidio al ginocchio, così naturalmente, senza con noncuranza, diede una botta praticamente, no? Un colpo, no? E praticamente per la zanzara non rimase altro che una frittatina, insomma. Quindi questa è la dimensione in cui noi pensiamo di essere, no? Noi pensiamo di essere i signori, i controllori dell'universo, ma basta un piccolo scuotimento del terreno, un terremotino, o una piccola eruzione vulcanica, o magari a volte basta anche un temporale, o un'inondazione, oppure basta anche un raffreddore a volte. E il grande, potente controllore dell'universo, la creatura più elevata, l'uomo, è finito. Fuori dal mondo. Eh sì, ormai stiamo andando fuori dal tempo. Il tempo che limita il nostro programma, il tempo che limita il nostro corpo. Come avete sentito questa simpatica storiellina della zanzara? Noi siamo veramente ancora più piccoli delle zanzare. Siamo infinitesimali, dei piccoli, piccoli, piccoli granelli in una spiaggia immensa. Basta un'ondata e... Allora, nella speranza di acquisire presto questa consapevolezza di essere piccoli, questo non vuol dire così non sentirsi delle nullità, non fare più niente, ma significa semplicemente riconoscere la grandezza di Dio, e in questo modo riacquisteremo presto la nostra serenità, perché tutta la nostra ansietà viene dalla corsa di crederci sempre più grandi, di voler essere sempre più forti, sempre più belli, sempre più gravi, sempre più. Benissimo, Allora io ringrazio che siete rimasti all'ascolto di questo programma, vi invito a continuare a rimanere all'ascolto di RKC Radio Cristo Centrale e arrivederci. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Letteralmente Radio Yoga Network. www.letteralmente.info. Nostro indirizzo di posta elettronica radioyoganetwork@gmail.com. Buon ascolto!